vecchia di 4 anni. E vabbè. Vabbè, c'è la moto, già ti piace. Fai, non mi intrighi. Ciao, vedi se mi stai ascoltando. Ehi, hai dato ascoltando, già così Luca, 18-10-94, sì, così c'ha ragione. Sì, che vuol dire che tu 94? Io no, ma c'hai a disposizione qua la frequenza del telefono, canale 2. Ma si può far fare, via. Giulio? Sì, mi senti? Abbiamo parlato in due, c'hai a disposizione la apparecchietto? Qua la frequenza, canale 2. Sì, andiamo canale 2, sempre quello. Non ci sono problemi, io sono già pronto, guarda. Vado sul canale, aspetta. Vado sul canale e ci siamo, vai. Ti sento, cioè, a sbocchio aperto. Se non mi stanco e vado prima al lavoro, faccio così. E per me niente, attacca la antenna. Ehi, giù, però è rimasto nel 16 avanti, vuoi sciclo? No, io sono spento, se mi stai chiamando nel ripeti in questo momento spento, se no non posso sentire il baracchino, o l'uno o l'altro. Se poi dobbiamo fare la prova la facciamo anche. Tu quanto non hai il ripeti? No, negativo. Ho capito, dai, vabbè. Ok, frequenza 433-075. E beh, Luca, questa telefonata è lunga. Oh, giù, no, questo è canalizzato, è portatile. Però no, 1, su canale 1, ma non sento nessuno, prova. Aspetta che tu, scusa un attimo, altro che provo, vediamo un po' se sta preso un po' di ricarica la batteria. Al 100%. Aquí Stazione Lucca, Lima Unico, Charlie Alfa, Nord di Sardegna, la città del Sassari, ok? Può essere? Può essere Lucca, può essere la città di Sardegna, per acá. Per acá la città di Murcia, Murcia, sud-est della Spagna, ma è QSL, Luca. QSL, scusate al 100%. Lo ripete, per favore, il cuore nominativo, ok? Indicativo è 30 Lima Oca 2774, radiooperatore Mariano, a me mi hermano si è ascoltato. Ok Mariano, ok, scusate al 100%, Escucho al 100%, il segnale nuovo Radio 5, ok? Ok Luca, ok, ok, más o menos la tuo controllo per la Hispana è lo mismo, más o menos 4-4-4-4-4, no diga 5, 4-4 mi hermano, avanti Luca. Ok, ok, ti mando avanti il compagnero Antonio, anche lui nella città di Sassari, compagnero Benito e compagnero Giulio, ok, vai Antonio per l'amico Mariano, cambio. Trappa Mariano, se mi scusi, ben sentito 7351. Avanti giù. Ti molto Fabi, Mariano che ha modulato per la Hispana, molto Fabi per qui, non cortare il commentario. E vamos a ver Roger Lucas si me ha cortato. Ok Roger, l'amico Antonio, Antonio, dalla città di Sassari. Vediamo un po' il compagno Giulio, avanti Giulio, con l'amico Mariano, con la Spagna. Attento, compagno Mariano, si ascolti Giulio dalla Sardegna. Attento Mariano, si ascolti Giulio da Sassari, vedi? Roger, Roger, Giulio dalla Sardegna, al 100%, ora mi hermano, antes no te he cortado, molto Fabi, o che le ha metido wiki, le ha metido wiki a la tua modulazione, mi hermano. Adelante, adelante. Ok, ok. Santiago 5 per te, Radio 4, Santiago 5, Radio 4 per te. Ok, ti mando avanti Antonio, da Sassari sempre. Avanti Antonio per l'amico Mariano. Attento Mariano, se mi vai scusciando. Mariano, ben sentito, Mariano. Ben sentito. Vedi un po' il mio controllo radio come ti arrivo in quelle coordinate, Mariano. Avanti. Roger, Roger, Antonio, per lì la metà del commentario intendito per acá, per la Hispana, molto Fabi, solo ho potuto copiare il tuo ultimo commentario, la ultima parola. Il compagno Antonio, negativa, quasi quasi, è corto per acá, De 3x4, 3x4, Santiago y el radio, dos más menos, con algo de Fabi por acá, no comprensible. Grande positivo, dai. Vuol dire che la mia postazione per la tua è un po' negativa. Va bene, riprendi Lucarelli e fai girare. Attento Mariano, riprendo io Giulio. Ok, in questo momento Luca è assente, va assente dall'apparato. Attento Mariano, dai Roger si ascolti ancora Giulio da Sassari. Roger, Giulio, Giulio de Giappari, yo Roger, Roger, mi hermano, por ahí del corto voto viene con Fabi que sube y baja la propagación, pero te entiendo bene, me corti por ahí, Giulio, de ok, ok, Mariano, anch'io ti ascolto bene, buona la radio e buono anche il segnale. Va bene così, vediamo un po' se è rientrato Luca. Luca, sei rientrato? Aspetta, no, giù. Attento Mariano, Mariano si ascolti Benito, Benito dal nord Sardegna. Alla Roger, Roger, Benito del nord della Sardegna al lado di Molina, ok al 100% mi hermano, ok. Ok Mariano, da questa parte arrivi Santiago 9 Radio 5, Radio 5, doppiato? Piano al 100% mi hermano della Molina, por aquí al 100%. 9. Santiago 9 más 10. 9 más 10. Ok, avanti mi hermano. Sì, Mariano, da dove, che città stai modulando? Roger, la città di Murcia, sud-est della Spagna, a uno 36 km della costa mediterranea, ok? Kappa, io mi trovo a 4 km neanche, ci sarà, non ho abbastanza di acqua. Mariano, mi ascolti? Ci vediamo, ciao. perché? Per farti dare il mio numero di telefono. Ah, va bene, va bene. Ciao. Ci vediamo. Tu, quello di Salvatore ce l'hai? Quello di Salvatore sì, ce l'ho. Allora, vieni, ti chiamo lui, ti fa dare il mio. Pure tu mi mandi, me lo fai squillare. Vedi, te lo faccio squillare. E allora ti richiama quando sto, capito, quando sto venendo. È positivo, dai. E parlo così allora, dai. Ok, bene, facciamo così allora, dai. Tu tanto domani a casa, sì. Dovrei essere a casa, sì. Allora, io se sono lì alle 5 e mezza, sì, se me, no, capito, quell'ora lì comunque. Ho capito, ho capito. E va sempre meglio che ci sentiamo per telefono, perché magari i previsti se ne trovano sempre, è meglio che facciamo squillo, bene. Quello non vorrei che magari e non ti trovo, capito? Ehi, è vero, è vero. Capito, già al limite faccio uno squillo, ti dico va bene che mi trovi di sicuro e ciccia, va. Scappa. Va bene così, già rimaniamo la curiosità. La tua parte faccio lasciare il recapito telefonico, così ti faccio uno squillo e ci mettiamo d'accordo quando vedirci, dai. Positivo. Va bene, vedo. Va benissimo. Giulio. Sì, là ci sono, sì. No, stavo ascoltando questa. Detto, ma ancora in via Monte non sento, via, come si chiama quella via lì? Non sento nessuno più lì. No, io sono sempre via Rockefeller. Ah no, volevo dire dal lavoro. Lo stavo lavorando sino a tempo fa in via Monte. Ah, lì ho terminato, sì, lì ho terminato. Però pensavo che era quella lì che stavate facendo le finiture di quella casa lì. No, lì ho terminato, capito? Ci sono rimasti due operai e basta. Io ho terminato quella lì, capito? Sto lavorando un'altra ditta adesso. Capito, sì, ho capito. No, perché me l'avevo detto, però lì, perché ti sto lavorando lì in quella... Ma tu, vabbè, se è capitato l'occasione, già ci vediamo. Perché invece di più, adesso. Va bene, d'accordo così. E la... Hai visto che c'era una bella propagazione, quella... Dove la gara gli fa vita lo spagnolo, e poi su me l'ho notato. L'ho notato cosa dicevi. E lo spagnolo non lo so parlare, lui parlava male l'italiano, e per quello che lo salutate, ho voluto chiudere con lui, capito tu? Sì, ma io sono lo stesso. Cosa dici? Spagnolo io sapevo parlare un po', non molto, ma purtroppo è così, ma non si sa parlare, e puoi scambiare due parole così, ma non ho più di tanto, giù. Infatti, io non lo vuoi dire, no? Anche perché nel segnale va e viene così, in mezzo al QRM, qua. Ma già lo sentivo bene, non è che lo sentivo bene, sentivo 5, però c'era molto questo in B, scendevo anche a 1, scendevo, ma lo sentivo lo stesso, Quando scendevo a 1 lo sentivo lo stesso. Andando così là, quindi ormai, prima si facevano questi collegamenti, si cambiavano cartoline, eccetera, ormai non sono più nuova le cartoline, ero altro. Vero Giulio, ormai mi sono di moda fare due chiacchiere così, ma non più di tanto. Infatti, capito, lì, ormai ci siamo staccati anche dalle cartoline. Capo giù, ormai solo lì, ci arrivo, non ci arrivo, come stai, poi buh, solo così. Anche perché ormai la gente non è più disposta, diciamo, a fare lo scambio della cartolina, non è che... E vabbè, comunque, andare. Prima c'era molta più gente, frequenza, allora c'era anche più possibilità. E invece oggi no, gli spagnoli non è che sono tanti di mezzi, ma non è che finita, Perciò, noi ci vorrebbe la carriera postale, ci vorrebbe, solo deve dare l'indirizzo, questi stranieri magari non capiscono l'indirizzo che le dà, insomma è un macello. Se l'avessi saputo usare bene, probabilmente mi avrebbe appassionarsi di più, ma no, non mi piace il gruppo, ecco, come non mi attira. Capite? Dimmi. Pronto. Dimmi. Guarda che mi sono dimenticato invece, non c'è, devo andare a ritirarlo in officina, quindi domani sono tutto il giorno di lì. Cerca di chiamarmi, così ci diamo appuntamento e vengo domani direttamente. Se sono libero che non avete problemi, vedi già ti chiamo e non mi gira qui a Sassari. No, non uso devo salire. Buonasera. Buonasera. Va bene, dai, già ti chiamo, quindi non c'è problema. Ehi, allora, è arrivato. È arrivato. Ci sentiamo a tutti. Ciao Giulio, ciao. Ciao, bene, ciao, ciao. Avanti, che trago. Ti voglio chiamare Mauro. Ciao Mauro, buonasera. Ciao anche a Giulia, che se ne lo dico. Io sto passando su 10, ma c'era Luca su 5, c'è Giulio su 5, c'era Benito su 5. Allora sono passato su 5 e su 10 non c'era nessuno. Già va bene, buonasera comunque, ciao Giulio avanti, ciao Antonio, ciao a tutti. Ciao qua, ciao Benini, stai chiudendo, ciao, non ho avuto modo di salutarti prima, ciao qua, e beh, come va? Ebbene, fase di ripresa, mi sono alzato poco fa, ho tutto acceso qua, e allora ho visto che non c'era nessuno, era tutto acceso, ho sollevato il volume e ho sentito voi sul canale 5, ho fatto di qua. No, la giocata di così, come ci devo dire, invece eravate voi qua. E niente, domani si riprende, vabbè, come sempre, non mi sono mai fermato, però domani si inizia una settimana lavorativa, speriamo tutto bene. Ok, e tu Antonio, finito hai, domani la giornata, ma devi anche il telefono a coach, a Enrica. Chiamato male? No. Ho sentito io, ce l'ho sempre preso. No, non ho ascoltato per niente, era muto completamente. Telefono? Yes, yes. Aspetta, ho messo la cucina lì che non ce l'ho ancora spento, magari, aspetta un attimo. E boh, era completamente zitto, mio. Non ho fatto neanche tutto, niente. ci fa sapere qualcosa. Poi ho notato ancora una cosa, perché quest'acqua, anziché essere pulita, limpida come la prima, adesso è sempre marroncina, ragazzi. Tu per dire, non so, metti un po' di acqua nella vasca da bagno, no, la vasca da bagno che è bianca, bianca candida, e tu con il fondo che poi c'è questo colore terriccio, cosa accidenti, non lo so, meno male noi non beviamo l'acqua, ma per cucinare ci vuole l'acqua, non è che poi la chiama acqua minerale per cucinare, noi da tantissimi anni, da oggi a 30 anni beviamo sempre acqua minerale, non abbiamo più bevuto acqua al rubinetto. No, se c'è questo problema è meglio che si sappia, vogliamo la correre con lo figlio. Ehi, ehi, giù. Ma no, è così. Vediamo un po' se si è telefonato, come ho detto, Claudio, tutto a posto? Bene, effetti così Giulio, no, ma è bene che l'hai detto, così almeno si verificano certe cose. Cioè, non credo, cioè, ma stiamo scherzando. Certo, infatti avevo pensato, sto sentendo, non chiedo a vedere cos'è. E infatti lui mi sta dando quasi conferma, adesso non voglio dire che stiamo sbagliando lì, ma mi sta dando quasi conferma che se c'è un'esagerazione di quello così lì potrebbe anche fare un difetto del genere alla gente, capito? E allora è giusto così. A farlo di loro ci vuole niente, che uno sta lavorando, magari è convinto di fare bene, invece magari è una cosa che può succedere, no, è un errore umano, non è niente da dire, né da ricolpare nessuno, ci mancherebbe altro. Caffaroccio, vabbè, è una cosa umana, certo. Ma quando si possono mettere a posto le cose è sempre bene, dai. Sì, erano leggermente alti durante la settimana perché praticamente sono stati fatti dei lavori, quindi per far sì che si pulisse un po' prima la condotta hanno aumentato leggermente il biossido di cloro, adesso l'hanno riportato alla normalità, dovrebbe essere intorno ai 0,23-0,25 come la norma, prima era 0,30. Ho capito, ma infatti il servizio d'Antonio che ho notato che è anche sporca, quando tu metti l'acqua nella vasca da bagno, no? Sai, avendo la vasca bianca, bella candida, e sotto si vedeva che non era proprio pulitissima l'acqua, c'era una specie di colore di terra, una cosa del genere, capito? Ma adesso è spiegato tutto. Mi hai spiegato il motivo, capito? Dice, è stato fatto un lavoro alla condotta primaria, noi la chiamiamo la prevente proprio da sassi a protose, quindi quella che passerà a te lì a ottavola hanno dato leggermente più di cloro e quindi è per quello che c'era questa irritazione. L'hanno già abbassato davanti ieri. Sono già abbassato davanti ieri, quindi adesso non dovrebbe succedere, però quando hai questi problemi avvisami, così avviso loro e si rendono conto qual è la percentuale, se c'è troppa percentuale la diminuiscono, capito? Ok, qua, infatti, perché non lui ha detto, per 60 coglio, lui che deve essere trovato, che lavora in quell'ambiente lì, in quelle cose lì, che sicuramente mi sa dire qualcosa, chiedo così per curiosità, e mi stai confermando, e così, vabbè, certo, se era necessario farlo, non è un problema. No, ma anche perché lui, perché no, dice, si ha un'allergia all'acqua, dice, ma non è una cosa grave, perché è solo questo del tempo, perché poi ti passa anche con l'allergia, non è come le allergie che magari uno si tiene per tutta la vita, no, dice, no, questa è una cosa che ti passa a me fare la cura, infatti sta facendo questa cura, con questa pomata che mette nelle mani, eccetera, eccetera, e il rossore sparisce, anche il fluido tremendo. Ok, vabbè, adesso mi hai spiegato tutto, ho capito. Allora, c'è tu. Ma è bene che si dicono queste cose, giustamente, quando si hanno questi problemi, poi c'è Claudio che nel campo e ti può dare delle belle spiegazioni. Kappa, è importante che sia una cosa passeggera. Bene, Meda, riprendi Claudio. Sì, non fa male, nel modo più assoluto. Io quando tocco qualcosa che bevo, devo discutere. quindi ha una reazione del 75%, diluito con l'acqua, diventa biossido di cloro. Perciò è un reagente che deve lavorare con l'acqua, non ha mai fatto male a nessuno. Non me lo piace molto, più che un'allergia è un'irritazione alla pelle, ti irrita, ti crea del prurito, ti fa un po' le mani rosse, ma in pochissimo tempo sparisce, non ci sono problemi. Non è proprio un'allergia vera e propria. Potrebbe essere un'allergia se qualcuno magari è allergico all'ammoniaca, alla torta ammoniacale, a tutti i reagenti che vanno nell'acqua, allora diventerebbe un problema. Ma sono tutti reagenti che vanno solo per fare del bene all'acqua, non per fare del male. Quindi crea sì dei pruriti, delle cose, ma è proprio un'irritazione al momento, poi passa tranquillamente giù. Sì, infatti è così. Infatti poi mi hanno la pelle di casa, le mani, non è come la mano dell'uomo, che l'uomo lavora, fa lavori pesanti e ha lo spesso la pelle più grossa, più spessa, capito? Queste donne, hanno le mani delicate, soprattutto fra il mezzanotte, così, lì ancora più delicata la pelle, e soprattutto lì il pulito era tremendo. Sì, non lo so, si vedeva subito. Va bene, ok, tutto a posto allora. Cioè bene quello che ti dice bene. Capparoccia. E allora come dici? Riposato oggi sì? Diciamo di sì, va. Diciamo di sì, Anto. Riposati. Io sto per riprendere una settimana che non credo sia di fuoco come quella della settimana scorsa. La gente adesso ormai c'è già il controesolo, quindi sta abbassando un po' la gente, le vacanze stanno finendo, però abbiamo ancora questa settimana, mi pare che sia 23 domani, se non vado errando, 24, non so, 23, e quindi da domani si inizia a rivedere un po' di gente al lavoro. Io ne ho ancora con me, c'è una carriera che erano anche il 1° settembre, faccio ancora, devo coprire, ma alla buca che dia me lo posso pulire, voglio più di relax totale, perché però intanto devo terminare anche questi lavori qua a casa dell'antenna, da fare quella fare e chiudere tutto in modo che per l'inverno non abbiamo problemi. Poi mi mastro Giulio mi mette a lavorazione con la scrivania, così finiamo anche qua e via. E abbiamo finito tutto, così per l'inverno abbiamo spazio, posto per fare un po' di cose. Sì, giù, quello è da fare perché mi serve anche più piano, a volte capita che devo fare qualche lavoretto o qualcosa e appoggiarmi dove ci sono i microfoni, dove ci sono le radio, non va bene, devo avere un'altra base di lavoro, capito? Sì, qua, beh, certo, da voi poi quei fianchi che avevo li avevo messi da parte, dunque, quando ci occorrevano, avevo detto che erano pronti. Non ci sono problemi, ci sono sempre, sono coerente con le mie promesse, con le mie idee, non vedo problemi. Si fa, senz'altro. Appena che rientriamo, riprendiamo in pieno di nuovo l'attività lavorativa, ti faccio uno squillo, vengo per le misure e così lo mettiamo in opera e completiamo tutta la stanza, così almeno te li liberi e allo stesso tempo ti ingrandisci anche lo spazio utile che ti serve lì appunto per trasmettere, per lavorarci anche, per tutto quello che ti serve, insomma, ecco. Va bene, qua, non vedo problemi. Si conferma. Ma vabbè, eravamo già d'accordo, anche perché poi vediamo se ce la farà anche qualche altro accorgimento o qualcosa che avevamo deciso di fare. Quindi completiamo giù. Completiamo. Ok. Avanti Anto, riprendi, cambio. Ai, è così, eh. Sì, piano. Si mette a posto le cose, piano. D'altronde così, se serve spazio bisogna fare lo spazio, ma c'è poco alla lontana. È vero, cappa di roccia. E così è così, adesso vediamo domani, sempre che non si cambia idea domani, perché a quanto pare la 50 potrebbe andare al mare, perché già 2-3 settimane buone buone che non si va neanche più al mare. Vediamo un po', sempre che tra poco virgolette non si cambia idea all'ultimo istante. Bene, meda, bene, meda. Già va bene, già va bene. Non c'è problema. Non vuoi le cose, io lo so, io voglio dire le precisioni. Quando sono da fare bisogna farle, perché altrimenti rimangono le mie tre piedi. C'è abbastanza ordine, per carità di Dio, anche troppo. Anche troppo, l'altro giorno ho spostato tutte le radio, ho pulito tutto, c'è l'aspiratore piccolino, si ha tutta la polvere da dietro. Però c'è sempre da fare, c'è sempre da fare. A settembre arriva il coso nuovo, il salto nuovo, quindi devo portare dentro altre robe in garage. Anzi, poi vabbè, vediamo se c'è roba che ti serve. Ok, e quindi voglio, mo se no poi altro, arriva l'inverno, non puoi fare niente, non sta piovendo, invece così lasci tutto aperto, ci devi fare qualche lavoretto, tutto arieggiato, capito? Infatti l'altro giorno mi ha tinto la ringhiera, che non era così messa male, però gli ho dato una passata. E mi si tira fondi nuovi ai piattelli della ringhiera, che sono quelli attaccati al muro, fatto mettere la tenda fuori nuova, con il laterale, detto che non si può comprare più nulla, una tenda con un laterale, grazie a Gesento. Quanto è venuta la tenda tu? 8. La mazza mi rivaglia, che se mi siamo Gesento, 800 euro la tenda pure. Cari, sono carichi a fuoco. 800 euro, una tenda quella di fuori, no? Che c'era già, però era tutta rotta. L'avevo riparato un sacco di volte, vabbè, sono i bracci nuovi, tutto nuovo, completamente nuovo. Quindi la tenda del poggiolo più un laterale, uno solo, perché l'altra parte faccio il... Anche quello, Giulio, ecco, questa è la cosa importantissima da fare prima che mi dimentichi. Ti devi avvicinare un lato del dove non ho messo la tenda, dall'altra parte, quello lo voglio chiudere, voglio, mi dai un'idea, ho una cosettina in legno o qualcosa, o non lo so, devi venire tu a vederlo tu, perché io ho mille idee, però sembrano delle cose brutte, invece tu che sei del mestiere. Non voglio chiudere bene, capito? Anche con dell'laminato bianco o qualcosa del genere, non lo so, bisogna che vieni tu. Ok, vabbè, d'accordo. Lo vediamo e vediamo un po' cosa si può fare. E poi tu decidi se fare o meno come ti dico io, oppure se hai altre di su. Non ci sono più niente. Tornando al discorso, non si può comprare più nulla, quello ormai ci avevo fatto l'abitudine. Ci ha comprato, prima di chiudere il pubblico, ho comprato tre tavoli, due sono, due e mezzo, perché uno era 30-30 da 15 cm, e l'altro invece sono 22 cm, più o meno, tre tavole larga, 22 cm, e ne ho comprato due di quelle, lunga 5 metri, e l'altra è 16-15 cm, sempre per 4,80 di su, qualche più corta, lo stesso è 6,5. Per fare una porta, devo immaginare, una porta finestra, ho speso 300 euro solo in su legno, ma come qua intorno, tre tavole, 100 euro l'una, repita. È una vergogna, guarda, uno se non riuscire fuori di casa per fare qualsiasi tipo di lavoro, da più grande a più piccolo, oggi la gente non ce la può più fare con i costi esagerati che ci sono. Questo è solo il legno, tu immagini poi tutto il resto. E sono i vetri, in questa parte ci vuole intorno ai 150 euro, forse anche di più, perché ci vuole il vetro camera, no? Guarda, si vuole, c'è serratura, verdici, tutto quello che conta, tutto quello insieme, il cazzo d'entrata, cosa, le maniglia, il paraspifferi sotto, perché ci vuole anche il paraspifferi, sono due anche, sono i paraspifferi, di terra, se ci vogliono 25 euro, costano 12,51 euro, premianta. Una cosa lunga, praticamente in plastica, che è lunga 90 cm, che poi va tagliata su misura. Costa 12,50 euro lunga, sono due ante, sono di quello, 25 euro, sono di quello. Insomma, alla fine lui, l'incurvento, se invento io, ma una buona volta che è solo il materiale. Uno quanto deve chiedere, uno quanto deve guadagnare per potersi fare una porta anche della sua, il problema è questo, non è quanto uno non paga il materiale, quanto deve guadagnare tu per farsi un lavoro a casa sua, è tremenda la situazione che qua. Io mi assurdo, lascia perdere le fesserie che abbiamo fatto noi, che questo è un bellissimo lavoro, ma rispetto a quello che ho speso per rimettere tutto a posto qua e sono fesserie, certo, una tenda, 800 euro complice, una tenda, senza avere le zanzariere e tutte le cose che sono state fatte dopo, ma ci vuole un sacco di soldi, ma parecchio, capito? E già hai visto giù quel poggio, un altro lavoro che avevi fatto, quella della K, giù in via Pascoli. Ma lì per rifare quel poggiolo in alluminio, perché quell'alluminio ormai non si usa più, è troppo umido, quindi bisogna togliere e mettere, fare tutta la nuova struttura, quella in PVC. Ma per fare quella struttura di quel poggiolo piccolino, adesso le misure così a occhio non ce le ho scritte nell'agenda, mi hanno chiesto, allora, montato mi pare che era 4.000, no, senza la manovra, 4.600 euro. Sì, lo so, sono costi enormi, proprio alla fine, sembra che sia caro chi fa il lavoro, invece no, se poi fai il conto, poi ci con la penna al massimo, ti avanzano le giornate, non è che ne avanza i soldi, non è mai la presunzione, se poi uno hai dipendenti che deve mettere anche con le spese insieme, finché sei da solo, come tu gli sono io, non la faccio niente, bene o male, posso anche accontentarmi, ma se avessi avuto per dire non sono dipendente che lavorasse per me, dovrei mettere con le spese anche in conto, e questo conto quanto sale? Ma dai una cosa, guarda, non si può più, oggi è impossibile comprare qualsiasi cosa, dalla più costosa alla meno costosa, non è più possibile, ma non è più possibile perché i soldi non battono più, la gente non ci può più arrivare, come parlo di crisi, caso di crisi, chi fa una tragedia, e non è una crisi, chi sa addirittura una tragedia economica, addirittura si sta verificando, purtroppo è così. Non si può prendere di nulla, veramente, è una cosa che non si vede, aspetta, ma si può pagare appena 800 euro, ma stiamo scherzando, poi è una cosa assurda. Sì, tanto, stavo parlando con mia moglie un attimino, capito qua, oggi purtroppo è così, qualsiasi cosa che tu vai a comprare, ti scoraggiano per i motivi, perché io dico, ma avrai giù tutti l'altro filaio a lui, ma passati due mesi, se mi compro questo oggetto, come faccio questo lavoro, si diventa un attimo sempre quello, cioè uno che vive dal lavoro, ha dei problemi grossissimi, uno se è miliardario, vabbè, è milionario, è un altro discorso, ma uno che vive dal lavoro, a un certo punto si deve essere sempre un attimo, ma io compro questo oggetto e poi ce la faccio passare tutto il mese, ecco qual è il problema, capito qua? Quindi uno quando fa le cose, quando fa i lavori, deve stare molto attento, no, perché le ferrate dite c'è a casa, capito? Non è così. E ma tu, cioè, considera il fatto che non l'ho fatta neanche qua, perché Marella voleva ancora di più questa scontata tramite soci ancora, ci sono i, c'è il fratello che fa questi lavori, però non le fa, me l'ha fatta fare Olbia. Quindi scontata, piazzata, mi è venuta 800 euro, ma con un laterale. Se facevano anche laterale, l'altro laterale ci volevano intorno ai 1100, 1200 euro. Capito? Quindi, lo so che queste tende qua costano, vabbè, questa è buona, Questa è buona, questa l'ha fatta quella di Olbia, quella che c'era zona industriale a Olbia. Ed è buona, è una tela molto grossa e anti-acqua, per quello lo sappiamo. Però, grazie, un bedrà. Cavolino, non sono bene. E allora tutto sommato sei andato bene, caspita, sei andato bene. Ci ho dato due citi di conto, uno e sale. E vabbè, ma se a sera sei deprimere di più, insomma, è convenuto più forte la fare lì a Urbia, dai. Sì, e va bene. Ok, e vabbè, tanto mi parla a casa, bisogna arrangiarti e pendire, ma intanto non fai una cosa, fai l'altra e ciccia. È vero, è vero, è così, riprendi Giulio. Ok, adesso io, quando è? Due settimane fa, prima di andare in ferie, insomma, no? Anzi un po' prima, dai, perché poi ho fatto anche un lavoro per una banca, eccetera. Ho fatto un lavoro qui per la camera di mia figlia, non ho mai avuto una maglia più grande, perché tutto quello, tutti gli elementi che avevano non ci stavano da quello suo, e allora ho dovuto fare una maglia più grande. E mi sono speso solo di materiale quasi 750 euro per fare questa maglia, no? Ora io che dico questo, se io ho speso 750 euro per fare questa maglia solo di materiale, tu vai a Conforama di gasoli, di tucciolare la bottiglia, e la paghi più o meno col prezzo 700-800 euro, ma dimmi tu che razza di camera puoi aver comprato quando hai comprato una camera a quel prezzo. Capito qua? Io naturalmente non ho riguardo il tucciolare, ho una maglia come si vede, anche se grande, è un armadio di 2,50 per 2,65 di altezza, e ci sono autosportivi, ci sono, non è poco. Per dire, no. Ma per fare il confronto, no, io con i soldi che ho speso avrei comprato una camionetta completa, la Conforama, però non mi sarei potuto vantare di dire ho una camionetta, hai un mobile in pane di grassetti vecchi, di cartoffa. Infatti, fortunatamente tu non paghi la manodopera, e se pagavi la manodopera? Ma tu, se pagavo la manodopera, se tu pensa, io questo che ho qui nella camera mia, nella camera resta mia, c'è una mano grande, che è lungo, largo, 2,10 per 2,65, è tutta attenta, e ci sono 12 sportelli, ci sono 6 sopra più 5 cassetti in questo armadio, quello è un armadio che me lo durassero, no? Io non me lo insegno, io non lo posso fare, perché è un armadio fatto, tu pensa che sono i fotelli, i montanti, eccetera, siccome l'armadio è laccato, no, laccato in bianco, perché ho la camionetta, c'è un bicolore, no, l'avuto così mia moglie, l'armadio bianco e il resto colore cilindro, però un po' che dà anche sull'occhio, capito? Dico qui si usano le camere così, stavo dicendo, solo l'armadio ci vogliono 6.000 euro per fare un armadio come quello. Tu pensa che solo di ferramenta tra colori, cernieri, calamite, eccetera, eccetera, roba in 200 euro, solo di sicurezza di così, figurati tutto il resto. I fratelli addirittura sono di nuovo un sippo, cioè nuovo originale, e poi ho avuto il coraggio di laccarmi, cosa che non avevo voluto usare quel legno, ma l'ho usato perché so che la cattura potrebbe fare effetto se usi un legno spaventa, ti si restringe, tu vedi le spaccature, eccetera. Questo lo dà di lontani luoghi, non c'è niente, se vuoi dire niente, il bianco cambia proprio come quando l'ho fatto, a differenza di altri lavori che si fanno, ma mi sei ingiallito, per forza ti sei ingiallito, perché? Perché non hai utilizzato il catalizzatore anti-ingiallente. Parliamo, magari lo che so io, 50-60 euro dal materiale, non hai utilizzato quel tipo di catalizzatore e allora non vuoi che sia ingiallito, invece no, se tu non l'hai fatto bianco, te puoi mandare il bianco sempre, in eterno, capito qua? Ma c'è certo, il buco di cazzo, i buchi vogliono trattarti, come funziona vicino, i buchi vogliono trattarti, vogliono farti bene. Perché altrimenti non fa, altrimenti caro mio non fa, capito? Vogliono trattarti, tenuti bene, e date ogni tanto una baciata di qualche cosa, certo sempre consultando il falegname, perché ci sono molti che danno del materiale che poi invece devi arrivarlo il mobile lo disintegra, a chi è più pieno di acidi e quindi non va bene. Claudio, scusate se vi interrompo, io devo lasciare un attimino, ci sentiamo più dopo se coincide. Ciao Giulio, mi ha fatto piacere scambiare le tue parole. Claudio, a più dopo se coincide, dai. Ehi, ehi, fai pure, tanto piena libertà, non c'è problema, ho sentito il telefono. Vai Giulio. Ok, ciao a tu, ciao a tu e alle gente ci presto. Ok. Sì, è così, ma ci sono certi, io ho tanti colleghi anche falegnami, però poi qui su questo realizzatore, l'altra volta io stai facendo lo spiaggio, stai facendo, tu magari per risparmiare 50-60 euro dal catalizzatore, e invece il catalizzatore normale, normalissimo, e va bene, ma va bene per quanto tempo? Se uno te l'ha chiesto bianca, o se ti ha chiesto un colore qualsiasi, tu utilizzi il catalizzatore che non è antingiallente, cosa succede? Che il colore stesso poi subisce un'alterazione e da bianco magari diventa color crema e non va bene. Tutto questo perché? Perché tu sei stato egoista magari per risparmiare 50 euro, 60 euro di differenza nel comprare il catalizzatore che hai messo insieme in mezzo alla vendice per potersi attuare. E non va bene, non è la persona seria. Se io sono dato un mandato di bianco, vuol dire che lo vuole bianco. Non lo vuole bianco oggi e sta seguendo il giallo. No, non è bianco, se l'ha chiesto bianco deve rimanere. Purtroppo qua ci sono quelle persone e non ragionano così, come sto dicendo, come sto ragionando io in questo momento, e allora fanno delle stesserie e tu gli magari la gente dice, mi vuole bianco, mi fa fare il bianco, ha fatto quell'armadio bianco, adesso è giallo e così via. Cioè, ci sono sempre gli imbecilli, no? in tutte le categorie. Ci sono sì. Siamo noi tanto, già ci sentiamo dopo, non c'è problema. E ognuno deve fare il suo lavoro, Giulio, non è che uno deve improvvisarsi, a meno che non sia, insomma, che sia bravo, allora non ci sono problemi, ma ognuno bisogna che faccia il suo lavoro. Quando io intendo il suo lavoro, dico che non devi sapere che c'ha a destra e a sinistra, deve fare il suo lavoro. Se lo sai fare va bene, se non lo sai fare devi lasciarlo fare a chi lo sa fare e soprattutto chi ti dà dei consigli utili per poter far sì che stiamo parlando di mobili, quindi di mobili dobbiamo dire, c'è una cosa molto importante, capito? Sono dei trattamenti particolari, come hai detto tu, delle cose particolari che non bisogna usare. Perché gli si pronto, gli si gose, ma i mobili sono porcherie secondo me, chissà quante cose buone che ci sono per trattare il legno e tenerlo sempre vivo. Beh sì, diciamo che il legno quando è lucidato con le vernici polimetalliche hai bisogno praticamente solo dello straccio per sfoderare, al limite dello straccio umido se tu ce l'hai qualche macchiolina sotto, ma macchiolina nel senso non una cosa, perché magari un bambino che sulla aveva le mani sporche di gelato e ha toccato un mobile e magari si è asciugato e non ha fatto la macchia del gelato, tanto per fare un esempio, allora mi prendo lo straccio, tengo il dito e lo pulisci. luce panoramica, se non ho scorticato il legno, cioè se la luce non è scorticata, non ci arriva mai il legno, nessuna cosa, ma solo che tanta gente incomincia, cela, è un rosso, è questo, è quell'altro, perché magari sono dimenticato di mettere il sottobicchiere, la tazzina del caffè, quello la tazzina del caffè era bollente, gli ha lasciato un cerchio, un bicchiere dell'acqua freddissima che l'ha lasciato sopra e gli ha lasciato l'alone del bicchiere sotto. Insomma, sono particolari che naturalmente uno deve sempre tenere in considerazione, perché tu sul nuvole non puoi mettere una tazzina di caffè o un tè, una tazzina con tè caldo, bollente, perché lì a quel punto lì è chiaro, non devi meravigliare se sotto, quando tiri su una tazzina, ti ritrovi il cerchio dal fondo della tazzina. Perché? Perché quello è l'effetto del calore, eccetera, eccetera, potrebbe succedere quello. Ma quando sta le persone, sapersi trattare i nuvoli in maniera più perfetta, no? Se uno ha bisogno di una tazzina, di un piattino, non pone la tazzina direttamente sul piano, uscirato, mette il piattino, mette la tazzina sul piattino, e va bene così. Capito? Però, indipendentemente da tutto quello, meglio fare una buona lucidatura, nemmeno precipitare, usare sempre la vernice polimetallica, che è vernice per l'interno, non per l'esterno, e sia ben chiaro. Per l'esterno andrebbe benissimo se non avesse fatto male il sole, perché il sole col tempo la fa diventare bianca. Capito? Nel caso, ad esempio, quel famoso sportello di Google, che tu sai che è la cucina di rosso della finestra, il sole batte sopra e lo fa diventare bianco, capito qua? Ma sono quelli fattori, però le vernici sono straordinarie, le vernici polimetalliche, e soprattutto con quello che costano, se ti puoi immaginare. Non posso immaginare, infatti le grosse spese che si fanno a volte sono le buone vernici, non come la macchina. Ci sono quelle vernici particolari che vanno trattate, eccetera, e quindi è chiaro che costa. E poi il lavoro in se stesso è sempre un grande lavoro. Lavorare il legno non è bruciare l'arancio, devi essere bravo e soprattutto avere una buona mano, e questo a te, grazie a Dio, non ti manca, quindi non ci sono assolutamente problemi. E vabbè, no, io non ne ho mai usato sinceramente di prodotti per il legno, mai. Ho sempre usato il panno normale per togliere la polvere, oppure appena appena umido proprio per togliere le strisciate, poi le passi il panno asciutto e basta così. Anche su questa base, no? A volte sono impronte delle mani, come ti appoggi, soprattutto l'estate, sai, magari c'hai le mani sudate, eccetera, le passo proprio il panno umido, non bagnato, umido appena appena, sulle due microfoni, e poi le passo quello asciutto, è perfetto, non fa nessuna chiatta, nulla, perfetto. Sì, infatti quello che ho iniziato con le vernici polimetalliche è lo stesso, certo, e dunque non è lavabilissimo al 100%, nessun problema. Tu se ti prendono caffè o niente, non mettere mai la tazzina calda lì sopra, mettere il piattino sotto la tazzina e non avrai mai nessun problema. Capito? Tutto lì, niente lì. Poi anche se poi un bicchiere d'acqua che si rovescia sopra non è un problema lo stesso, non vale niente, perché intanto il legno non assorbe nella maniera più assoluta, perché quelle vernici sono impenetrabili, salvo che la vernice non sia per dire scorticata, allora il discorso è diverso. Ma se la vernice è compatta, intera, c'è sempre protetto il legno, non sono problemi. Se tutti dentro di una soluzione, intorno tutti un pochino di acqua sotto il piano lì, non lasci stare, tu domani mattina non lasci, e c'è sempre quel tanto di acqua, perché non assorbe niente, nella maniera più assoluta, capite? Perciò non è un problema questo, sono vernici straordinarie, proprio belle, non sirve per chi non lavora, perché se non ti metti la maschera ti ragheggia, però come proprio siano del legno, sono veramente straordinari. Per l'interno, sempre per i lavori fatti all'interno della casa, non mai all'esterno, capito qua? Certo. Stiamo parlando dell'interno, dell'interno, non dell'esterno. Si conferma. Ma comunque ho notato, non ci sono problemi. Va più che bene. Adesso mi ho già spostato, mentre stavamo parlando, ho già spostato quell'armadio che c'è. Che purtroppo deve rimanere lì. Non mi crea una risega dietro, perché c'è la colonna, e quindi adesso vediamo cosa fare, bisogna metterlo attaccato, lasciarlo stare così, cosa aggiungerà, dopo ci pensiamo, in modo che prendi direttamente la misura giusta. Lo fai da parte in parte come questo, orientativamente dovrebbe essere la stessa misura di questo e giù, orientativamente sì. Orientativamente dovrebbe essere la stessa misura di questo, più o meno, forse leggermente più piccolo, ma comunque esce come questo, vediamo. Allora, quando vieni tu poi lo vediamo assieme, dai. Non puoi eliminare un marietto come quello, è bellissimo quell'armadio, perciò chi ce l'ha sicuramente se lo tiene, è solo scritto, se lo usa, è un vero. Perché cosa vuoi intendere di fare di quell'armadio? Ma non lo fai intendere tu di fare da quella camera, anche se magari tu dici, ma guarda, lo tieni, ma che fastidio, lo tieni lì, dove ce l'hai, il piano lo fai a fianco, tutto il resto, e quell'armadio è bello, perché è bello, tanto è un luogo nuovo. Prima l'avevo visto, non ricordo bene, e poi è bello, è un bellissimo armadio. Lo so, devo una fatica, non me ne avanti. Ci metto anche roba mia, roba, cani, cavetti, roba che mi serve, capito? Non gli c'è un problema. Perché stavo pensando di tenerlo largo dal muro, invece non mi piace, quindi devo rimetterlo com'era. Siccome dietro c'erano quelle antine che ti ho letto di quella modifica che abbiamo fatto nel salone, no? Gli antini di vetro, ma io le antine io le biglio, ce le butto via, le porto su in massarda, le conservo, perché a mettere giù in garage non mi fido, perché sto mettendo una macchina a un amico, e quindi non sa mai me ne una piantella, le porto su, metto una coperta, le appoggio, le tengo su una sella, dopo al fresco ce le salgo, tanto già non pesano poco, pesa più il vetro, se la trovo me le lascio stare su. Quelle sono buone, non se le vuole buttare, ci mancherebbe altro, perché uno prima o poi sempre li utilizza, e poi quando le cose sono nuove e sono a posto, allora ci buttiamo tutto, no, si conservano, prima o poi, o al limite si possono anche regalare, se per caso c'è un parente che ne ha necessità, eccetera, e lo vedi. Ma prima di buttare bisogna farci un pensierino, no? Ma che cazzo, no, va bene così, va bene qua, la voglia. Stavo dicendo, cosa dici se proviamo il 43 hai oppure il prossimo 3 hai? Ti avvio già luogo, vi ho la possibilità, in questo momento io ho caricato un pochino questa batteria, questo qui è un MPD di quelli scarsi, però dovrei arrivare lì da te, qua, proviamo a vedere. Sì, 0,75, 4,33, 0,75. Sì, in quella frequenza lì, sì. Aspetta, che l'ho acceso. Vai. Che stai parlando? non ho capito niente. Claudio, mi ha detto, sono stato mai disturbato, capito? Questo mi apre più la scuola e ci passa tu. No, non apri, questo non apre più. Ti ha detto che evidentemente in linea d'aria noi siamo più aperti. Queste frequenze non sono come la 27, non te l'ho già spiegato. Quante ci sia un varco in UHF, è molto difficile parlare, ma è molto difficile anche per noi che a volte abbiamo antenne molto grandi, antenne particolari, capito? Tutto lì. Infatti il segnale di Giulio rispetto al tuo è più alto, è leggermente più alto. Gaffa, gaffa. Vabbè, ma il mio è più alto, va bene che più anche vado in più. Punto. Però lui arriva benissimo qua, mentre da te hai detto che è frusciato, quindi... Un po' frusciato, sì. E forse mai la direzione tua è ti sei in alto, normale, che mai a te ti prende bene senza avere ostacoli, ecco. Dai, comunque ce l'ho sento. Io pensavo di che arrivava meglio qua, invece va bene lo stesso, eh. Non c'è problema, sia basta per il segnale qua. Passi a 2, 2, 3. Io? Io, tu. Io non ne ho problemi qua. Nessun problema. Aspetta, mette. Tu, stazionario, c'ho il rosmetro incorporato qua, stazionario non bendata. Infatti sono quelli. Va bene così. Non problem. Ok, evidentemente c'è qualche varco che non va bene. Riprendi Giulio. Ok, qua. Io ho sempre la batteria carica, pensa che carica batteria, mi sta segnando il rosso, invece quando la batteria è carica è verde, si accende il verde. Capito anche Luca, è senza batteria solo, era scarico, adesso l'ho caricato un pochino ma non è sufficiente, capito Luca? Ehi, non c'è problema. Un attimino di bianco per me, che vado, mi sposto d'acqua, dai. Lasciate qua, là, o là, dimmi. Poi là siamo, non c'è problema. Vabbè. Di Giulio, qua o là? Segnale sì, ma la radio no. Zitto giù. No, stavo provando il microfonino, si vede qualcosa è successo al microfono. No, avevo messo un microfono qua. Avevo messo un microfono ausiliare e stavo cercando di uscire con quello, capito? Adesso l'ho tolto e ho ripreso l'apparecchio direttamente. Hai sbagliato il microfono. Hai detto, capito, ti ho aggiunto l'altra radio. Vabbè, succede, no? Può succedere, ci mancherebbe. E perché no? Comunque tu mi senti bene, vabbè, meglio così, dai. Adesso la lascio caricare sempre questa, così me la tengo sempre pronta, me la tengo questa batteria carica. E così poi almeno l'occorrenza ce l'ho pronta, capito? Lasciala caricare così. Così ci abbiamo sempre. A me mi senti bene qua, sì. Sì, come nel baracchino, la stessa cosa, guarda, alla grande. No, il cavetto mi sentiva a basso, c'è proprio qualche varco, qualcosa che ci impedisce sicuramente. Eh beh, senz'altro è così, perché a sentire basso a te mi sembra quasi un'assurdità. No, no, ma evidentemente il cemento armato che c'è tra una casa e l'altra e poi dà fastidio, perché con questa frequenza, con queste onde così corte, cortissime anzi, non è che c'è da sperare in una grande, diciamo, in un grande collegamento, però qui da me è più libero, evidentemente arrivi proprio bene, senza fruscio, senza niente, chiaro, chiaro. Sto usando la 510, c'è cioè l'antenna più grande che ho, quindi non è che poi chi sta quando tira l'antenna, non è che sta lì a c'ha 12 dB di guadagno. E figuriamoci, qui con lo squelci tutto chiuso me lo apri proprio bene, bene alla grande, no? Non ci sono problemi, io faccio il QRM e qui non ne sento perché appena che mollo parli tu e dunque mi apri lo squelci proprio benissimo, non bene, benissimo. Buongiorno, già me ne sono accorto che non ci sono problemi, già va bene, va bene, va bene. E ogni tanto invece possiamo spostare anche qua, non ci sono problemi. Beh sì, io penso, sì, anche perché questa abbiamo iniziato con queste apparecchietti un paio d'anni fa e poi le abbiamo messe in disparte, non le abbiamo più utilizzate. E invece è una frequenza secondo me da utilizzare, così almeno per la città va bene, va, perché so che vanno bene. Meno casino, meno QRM c'è giù. E infatti c'è proprio meno QRM, anche perché qua chiudi lo squelci e meno male riusciamo ad aprirlo e allora abbiamo più silenzio, una modulazione più pulita, più bella, dai, non ci sono dubbi. Sì, è vero, è così. No, bisogna usarlo qua, bisogna usarlo questa frequenza, bisogna usarla, dai. Siamo giù, qual è il problema? Non ce lo impedisce nessuno, adesso te l'ho detto, lo devo organizzare anche a Antonio, a Falchetto, che anche a lui le piacciono queste frequenze così silenziose, tranquille, senza problemi, capito? Ci organizziamo e qualche volta ci facciamo anche due chiacchiere qua, non è un problema. Infatti non è un problema proprio, tutto sommato devo dire che è una frequenza che mi piace anche. Poi per altre cose è un altro discorso, ma per parlare qui nelle vicinanze in città e a Voglia, io mi ricordo, mi sentivo Michele, mi sentivo benissimo lì al mare, mi sentiva proprio bene, bene, bene, bene, non c'erano problemi. Va bene, Michele era ben attrezzato allora, che poi non l'ho più sentito e anche lui è sparito dalla frequenza. Boh. Anche lui sta lavorando, non abbiamo più tempo, non è più come te prima. Infatti è così, lo so. Siamo un po' tutti così, dai, in effetti è così. Bisogna prima pensare a quello che veramente ci interessa, poi vengono le passioni per la radio. Hai capito? È un periodo un po' particolare. Io grazie a Dio non mi posso lamentare perché il lavoro mi sta impegnando tantissimo, ma tantissimo. Però sono contento lo stesso. È meglio essere impegnato al lavoro che essere impegnato ad altre cose. Ho lampato pari carreri. Quindi soddisfazioni me ne sto togliendo, sto facendo tante cose e sono contentissimo. Va bene così. Però dico, è un momento un po' particolare perché c'è da fare tanto, c'è da considerare un po' anche che siamo d'estate e che la voglia è poca, ma perlomeno d'estate mi stanco molto di più dell'inverno, anche sul lavoro, non ho quella grinta, mi piaccia subito, mi sassareso, cioè mi divento proprio il tracco. Ma c'è un motivo, no? Il fatto che ci sia caldo d'estate è chiaro, già solo la questione del clima porta ad avere un po' più di stanchezza, ma è normale, no? Quando invece siamo in inverno, anche se ci copriamo bene, abbiamo sempre più forza fisica, più voglia di muoversi perché non c'è quel caldo afoso e soprattutto quando c'è quel caldo appiccicoso, quell'umidità tremenda, va a dare fastidio, un bel fastidio, e allora è chiaro che uno diciamo che abbassa un pochino la voglia e il ritmo, mentre invece quando c'è freddo si muove meglio, è tranquillo, è pacifico, anche se in strada per dire c'è freddo, però uno si copre e va bene lo stesso, anzi va benissimo, non bene. Grazie, sbaglio il microfono, no, amare, quando c'hai i microfoni tutti uguali, guarda, è un casino, va bene, sì, giù, stavo guardando quella cosa lì, l'ho attaccato al muro, ho eliminato quella risega che c'era, quindi si parte da lì, dall'armadio si deve arrivare a un limite di finestra, dai, più o meno di 30-40 cm come l'altra. Sì. No, ma abbandona. Vediamoci più in fretta possibile, così lo mettiamo subito in lavorazione, perché assieme a quello lì giù, intanto ho visto che stai pannellando, che stai facendo, mi vedi anche quel lavoro del poggiolo, capito? E praticamente bisogna fare un tappo, manda una guida sotto, una guida sotto e due vidi autofilettanti. Non è che dobbiamo fare grandi cose, giusto per imparare dall'acqua quella parte lì, per quando stende, mia moglie le stende all'interno, capito? Quando vai chi sciovento, chi sciaberra, mi rampa tutta leva dentro. Ho capito cosa intendi dire, ho capito, sì. E va bene, d'accordo, claro, non è un problema, già lo sistemiamo lo stesso, già troviamo il sistema come fare e come risolverlo, perché sì, in effetti la serbatina quando va il vento si butta l'acqua dentro, se ne butta è fastidioso veramente, lo so, è una specie di coso, dai, di tamponamento, chiamiamolo così, in maniera un pochino rozza, capito? Va bene, d'accordo, è sensato, no, t'abbandono, appena che rientro, appena che mi metto in funzione le piccole cosette che ho e poi subito ti chiamo, così vengo e vediamo un po' le misure e si va avanti. Di giù, sì. Metti in mezzo, già come abbiamo fatto col tavolo. Metti in mezzo. Così io finisco sta roba. Ma il sciodappo, vai dai, il sciodappo è una cosa che bisogna fare subito. Se è una cosa che quello riesce a farmi subito, intanto ti pigli le misure, è un tappo. Due tascellini sopra per mantenere una guida, dai, una L sicuramente ci andrà. Si appoggia e si mettono due viti sotto e due viti sopra. Senza giriconare, senza niente, giusto per attutire l'ingresso dell'acqua, capito? Poi insomma lo vedi tu, se di guida ce ne vuole una anche verticale si mette, non sarà che c'è un problema. Beh certo, facciamo una cosa come si deve, lo stesso, in modo che non si deve rifare dopo domani di nuovo, prima che i casi, no, senz'altro, no, non è un problema. Già troviamo la soluzione e tu mi scusate a un anno, poi le soluzioni già si trovano sempre, non è un problema. Va bene così, d'accordo, va. Attenzione Luca. Ma quello da quando ha il computer è proprio non c'è da fare, il computer lo appassiona di più della radio, la appassiona, evidentemente lui è così. E va bene lo stesso, perché no? Il computer è una cosa che appassiona un po' a tutti, io in questo periodo mi fa troppo caldo, anche se c'è la finestra aperta, però mi va di troppo caldo, e allora lascio un po' spento, diciamo, in questo periodo è sempre quasi spento. Però poi d'inverno già mi appassiona, ma vai due tronzate, giù e bei, mi faccio un girettino, una cosa, già fa sempre piacere. Però lui no, ma lui lo sta riparando perché ha avuto dei problemi e quindi lo sta, mi pare, riformattando, rifacendo, capito? Ah sì, è vero, sì, me l'avevo detto poc'anzi, avevo qualche problema, evidentemente. Lui fa bene, se non lo mette a posto così almeno. Faccia più avanti. Sì, no, io la verità è il computer non lo so usare, no, poi non mi appassiona più di tanto, lo uso solamente per piccole cose, guardare un po' l'elettronica, guardare che so io, su YouTube le canzoni magari, oppure le partite anche, insomma queste cose qua già le guardo, però non è che sia padrone del computer, non lo so usare, insomma ecco, mi ritengo abbastanza carente per il computer, non, anche perché non mi ha mai appassionato più di tanto, devo dire la verità che non me la frega più di tanto, ecco. So che per vedere un po' di elettronica eccetera eccetera, l'altro giorno stavo guardando un po' frequenza, avevo scritto la frequenza direttamente, ad esempio scrivo 27 MHz ed ecco che è venuto fuori tutta una serie di cose, addirittura tanti baracchini, tanti collegamenti anche ci sono, perché poi si trasforma in YouTube, si trasforma, oppure che so io scrivo in 80 metri e così via, c'è tutta la storia, come funziona, come va, come non va, le onde di propagazione, tutte queste cose qua, queste cose già le guardo, poi guardo anche le aziende che vendono materiali di trasmissioni, e, insomma tiro avanti così. Tutto lì, la mia passione per il computer si ferma a queste cose. Non ti credere che anch'io sia, a volte mi guardo delle cose anche io, proprio interessanti, capito? Delle cose interessanti. Se no anche per me non è visione i problemi, lo lascio così, giusto per guardare qualche cosettina e basta, mi Giulio, niente di particolare. E qui ce ne sono quattro computer addirittura, uno di base e poi ci abbiamo tre portate, due sono di mia figlia, i portate, uno è di mia moglie e quello di base lo uso io, lo usa mia moglie anche, però diciamo che mia figlia è una professionista perché che lavora con computer, lei è laureata e il suo lavoro si svolge soprattutto a computer, di conseguenza è per quello che ne abbiamo così tanti, capito? Non vedo problemi. E allora così, io sinceramente non sono appassionato del computer nella maniera più su, mi piace più il baracchino, mi piace più la radio, mi piace più anche la televisione, ma il computer non più di tanto, solo per le piccole informazioni che mi riguardano e via, poi tutto lì, mi blocco lì. Infatti, ma a volte già ci sono cose interessanti, dai, si fanno. No, ma con Luca ci abbiamo un programma di musica, quindi ci sentiamo anche via voce, abbiamo un programmino di musica dove entrano tre persone, mettono musica, chiacchierano, insomma, si usa anche a quei livelli, dai, non è che già va bene, per il resto poi. Quando vuoi che cosa è di casa, se stai cagando no, si lascia così. Il microfonino non esce, cosa va? Ecco, capito. Allora, sarà qualcosa, meno che non fa bene contatto la portante. Boh, non lo so, vabbè, comunque, non è un problema. La facciamo così, tanto non è che mi interessa più di tanto. Questo, quando posso trasmettere direttamente con il mio PD e non se ne parla più. Non è un problema quello. Aspetta che lo riattacco perché mi si è staccata la spina, come ho tirato adesso, così continua a caricarsi. Vediamo un po', ecco qua. Senza sbagliare polarità, dobbiamo che il caso. Perché sto caricando la batteria dall'alimentatore, ti puoi immaginare. Sarebbero due alimentatori, uno a 220 e uno a 12 volt. Sicché io utilizzo qua, utilizzo questo dell'alimentatore perché inserisco la spina e via, e lo carico così. Certo, anche quelli che ci vengono portati sono direttamente dentro il suo caricatore, quando vado a prenderlo è sempre carico, non c'è problema. Sto 4.30, sta accendendo bene, perfetto. Anche questo abbiamo dato una pulitina, grazie a vera l'avvento, la variante trattori, un po' in fase di abbandono. Allora stiamo alternando un po' il 4.30, un po' il 4.40, 140, se no non va bene, se no non va bene. Tanto tu mi hai detto che la modulazione va bene, è perfetta, quindi se non c'è molta differenza dall'altro. È perfettissima, non perfetta, perfettissima, ma veramente bella, pulita, senza nessun rumore, di uso, veramente di uso. Meglio di così io penso che non sia nemmeno possibile, perché è proprio al massimo, non radio 5, non radio 100, è bello, pulito, chiaro, corposo, proprio la tua modulazione, quella che solitamente hai sempre avuto e continui ad avere, capito? E vabbè, sempre di che mondo stiamo parlando, quindi la differenza è minima, ci può essere un po' di la regolazione del Mickey Game, ma io lo tengo sempre tra l'1 e il 2, sai che l'MC60, l'SM20, i microfoni che uso io non hanno regolazione perché sono alimentati dalle radio, quindi si lavora col processore e con il Mickey Game. Quindi ho il mic gain più o meno come 4.40, 1.5, 2 diciamo. E il processore inserito però sta spingendo abbastanza bene perché sono tra l'altro anche in cuffie e ciò faccio ascolto con il tasto Muni. Questo c'è bisogno di mettere le cuffie negli altri baracchini e controllare come sta scendendo. Qua inserisci le cuffie, c'è il suo tasto che ti fa l'autoascolto, quindi mi regolo in base a quello, che non è che sia molto molto preciso, perché l'importante è la distanza della modulazione, quindi hai sempre bisogno del corrispondente che ti dia da un minimo a un massimo. Qua la modulazione la senti proprio bella forte e rimbombante, quindi credo che sia più o meno la stessa cosa. Va bene. O era proprio in fase di abbandono, soprattutto il 4.30, era molto molto fermo. E adesso l'abbiamo rimesso in carreggiata, lo abbiamo dato un po' garito, vedi? Ce l'abbiamo tutti in ordine, sempre tornando al discorso dell'inverno, per alternare un po', per farli andare, bisogna sempre che siano efficienti del radio, se no non vado casino. Ok, invece certo. E io avrei dovuto cambiare l'antenna perché ci mancava metà di radiali e ormai è messa male, no? Vediamo un po' quando lo voglia. La metteremo nuova, perché sinceramente vuole cambiata e fare una casa senza radiali, ce ne mancava metà. Tutto sommato sarebbe anche meglio, è ora di cambiarla. Allora, tiriamo a campare, dai, quando è il momento, poi quando ne avrò voglia lo farò. Stavo dicendo, la mia radio è comunque sempre bella, pulita lo stesso, no? Mentre invece se faccio così, se aumento così mi sporca la radio, troppo come mi venga, la riporto come era prima, ecco, così era poco fa, sì. Fino a vedere come ero buono sulla tacchetta, ecco qua, sì, più o meno così, sì. Com'è che qua, come aumento? Amplifica molto di più, amplifica molto di più, però rimane molto più rimbombante. La preferisco come l'hai messa adesso, molto pulita, molto, molto alta, molto amplificata, non è che bassa, molto amplificata e abbastanza chiara, mentre in quella maniera ti tira su molti più acuti, non va a distorcere, ma comunque è molto, è troppo alta per la città. Magari quello lo puoi mettere quando fai qualche collegamento a distanza, lo puoi tranquillamente aumentare, non ci sono problemi. Ok, sì. Sì, io stavo tutto in questo, è quello vecchio, quello vecchio di 40 anni, quasi là, capito? E dunque, no, va sempre bene, e anche la batteria non credo che sia molto carica questa, perché ci saranno almeno 2 anni questa batteria qua. No, devo dire che questo microfono è bello, tutti quanti me l'hanno sempre detto, che riesce bene, e devo dire anche che come batteria non consuma abbastanza, consuma pochissimo. Ripeto, questa batteria ci sarà almeno 2 anni, vale, questo microfono, e non l'ho più controllata, non l'ho mai più venuta, non l'ho aperto per vedere se i contatti sono puliti, niente, proprio niente di niente. No, va bene, non ce l'ho anch'io, non è più tre. Ce l'ho anche io il tale P3, io però c'ho quello cromato, io ho il tale P3 di Super Cidric, l'ultimo che avevano fatto proprio di quella serie, poi quello, come quello lì, il 2, ma il Super Cidric è una cosa allucinante, lo attacchi a radio tipo l'Alan Galaxy, quelle radio lì, è micidiale, anche un Sears SSB 40 canali che è grande, sempre con le varie americane che a me piacevano tantissimo, anche quello era sempre dentro l'armadio, adesso abbiamo tolto anche quello, con tutti gli strumenti, tutti i portatili, quando viene lo vedi, ho fatto un lavoro alla grande, ho preso 3 piattine, adesso mi manca l'altro pezzo, l'altro bisogna farlo subito buono, perché voglio eliminare quella cassettiera, metterla sotto, tanto quella ce l'ha, metterla sotto quella cassettiera e fare una cosa fatta bene, così siamo alle Caraibi, come ti si dice, no? Televisore, abbiamo tutto, la base per fare qualche lavoretto che sta capita sempre, mi sembra un connettore, una cosa, e la base, tanto lì, quando ci lavoro mi metto sempre qualche trecento, qualcosa, come faccio qua, ho messo addirittura i gomini, anche i filtrini, anche al portacenere, per graffiare la scrivania, ho proibito tassativamente sia a mia moglie che a mia figlia di pulirmi la base, di dovevano entrare a lavorare per terra, passare la scopa, poi per il resto ci penso io. Beh sì, è meglio, vuol dire almeno sai come toccarli, eccetera, solo magari loro scoveranno, toccano male dopo le mani pulite, dovrebbero fuori fase, poi tocca di nuovo riaccordare tutto, invece voi sai, e tu dove mettere le mani, te lo spugno, quindi magari con un pennellino, che so io, e così via. E nessuno te lo tocca, e tutte le volte che vai ad operare in frequenza, sai che accendi e ci sei già, senza stare lì pure a regolare, a fare regolazioni varie, perché magari sono stati toccati tutti i potenziometri, eccetera, eccetera. Invece questo lo fai personalmente, e va meglio, oltretutto. Bene, ecco, è così. No, ma sempre io da sempre, ma anche quando ero a casa di mia madre, infatti non mi diceva mai niente, perché io sono molto ordinato, lo sai, io ogni 2 o 3 giorni, anche quando rientro la sera, mi metto, sollevo tutto, faccio la pennellino, una passatina di coso, di panno alle radio, tolgo la polvere, chiaramente che si vede, perché dietro sì, passo sempre, c'è un aspiratore piccolino per la lana, per la polvere che aspira, per poter pulire bene bene bene devi smontare tutto di nuovo, e non è una cosa fattibile, però quello che si vede bisogna toglierlo. È come dietro gli armadi, no? E certo, per pulire dietro l'armadio ogni mese bisognerebbe spostare, adesso come ho fatto questo, io ho spostato questo qua, ho visto che c'era della lana dietro e si forma purtroppo. E con lo scopettino ho pulito tutto e niente. E l'ho riappoggiato al muro. Quindi dove si vede si va, dove non si vede purtroppo rimane dove passa le cose di là. Certo, è normale, è una cosa normalissima, la polvere passa dappertutto, basta pensare che entra dentro un orologio, ti puoi immaginare, e dunque entra dentro un cellulare, c'è una cosa incredibile, e poi tutto chiuso, sigillato, ermetico, tranquillo, eppure la polvere è purtroppo così. E allora, chiaramente, intanto bisogna pulire, spolverare, certo, e così non ci possiamo salvare dalla polvere, perché la polvere c'è sempre in aria continuamente, e sa, è un po' lo smog delle macchine, è un po' lo smog che facciamo noi nell'ambiente, eccetera, la polvere c'è sempre, sicché si può immaginare se non si deposita dietro, sopra, negli armadi, nelle cose, dappertutto insomma, soprattutto nei luoghi oscuri si nota, è chiaro che bisogna pulire. E effetti ha ragione, ogni paio di giorni bisogna andare nella scuola della mattina, perché sennò guai, sennò salivemo, ci mancherebbe altro. Anche perché è tutto pulito, perché è giusto che sia così, no? Vabbè, è normale, bisogna fare sempre gli intendi. E ho un lavoro, non c'hai tante radio e poi basi così grandi, dove c'hai attrezzature, bisogna stare sempre col pennellino e sempre a mittendi, se no ti si forma la buio, il cosiddetto bingo, e a me non ci vado molto d'accordo io, non me lo piace molto. E niente, poi quando vieni già lo vedi. No, la stanza è finita la grande, è fatta bene, rimane il fatto di quella quell'altra base lì, che quella l'ho già letto, e poi ho utilizzato, già avevo due basi piccoline tipo comunini che la mia suocera, sono molto belli, a darli mi dispiaceva, e allora ho utilizzato anche quelli come cassettiere, come cose, cioè, ho riordinato tutto, e poi ho avuto culo Luca, ma ho giù che i comodini sono all'incirca, proprio appena appena più rossicci, sono del colore della base che hai fatto tu. Figuriamoci, sì che si abbinano anche molto bene, certo, non è che non ci sono problemi, già lo dire, e va bene, oiaia, cosa dire, boh. Stavo pensando, quasi scendo giù con un prossimo di buonino, e non se ne va bene più. E così, con la merendina. E così dopo, prima della cena, la luce, e siamo a posto. Anche più luce, la giornata è passata. No, oggi non sono andato da nessuna parte, non sono uscito. No, mi sono mia figlia che mi è andata verso Santa Teresa, con la zona lì, con tutte le amiche, amici, eccetera. Da quella parte lì se n'è andata. Ma noi non siamo usciti, noi siamo andati, io e mia moglie siamo andati qua, non è gravidana. A riposo, e vabbè, ogni tanto bisogna fare anche così. Puoi stare sempre in giro, perché andando sempre in giro, stanca anche se vogliamo. No, comunque, già non abbiamo tempo. Ehi, giù. Vabbè, vai, fate un bolino, vai, intanto io mi sono qua. Sono qua, mi faccio due chiacchiere, sono mia moglie e mia figlia. Se ti va, noi siamo qua, intanto Antonio si è spostato un attimino, ecco già rientrava dopo. Vai pure giù, io sono qua, io non c'è problema. E io qui qua, e scendo, anche perché giù c'è mia moglie, insomma, se no faccio un po' di compagnia, un pochino anche, okay. Mi dedico anche a lì. Ci sentiamo magari. forse più tardi. Allora che non viene mio fratello, perché di solito lui, quando noi siamo a casa, di solito arriva verso quest'ora mio fratello. E poi se ne va sempre verso le 8:30, 9. Va bene, grazie per il questo, per aver fatto passare quella mezz'ora, un'ora di chiacchiere insieme. Ci sentiamo al più presto, senz'altro. Ciao, qua, saluto voi, saluti in famiglia, alle prossime. Ascolto, fino a chiudo. Ok Giulio, piena libertà, grazie a te le due chiacchiere, te l'ho detto quando vuoi, noi siamo qua, non c'è nessun problema, grazie a te, ci aggiorniamo allora in settimana quando rientri e così verifichiamo queste cose che ce l'ho a fare. Grazie di nuovo, a presto, buon fine serata, buon tutto e saluti a casa, ciao Giulio. Ok, ciao, grazie, sentiamo, ciao. Una mazzana, un cazzo di zinco, è tutto invece lì. Allora... alle 6:30, alle 7, mi sveglio, una luce alle 7:30 giù qui ai cantieri. Non ho fatto male. L'ho telefonato e ho detto se c'era un bel gente, ma ho detto stamattina era pieno. Poi alle 2 ha cominciato a arrivare la gente, capito? Ma venne ancora di sì, sicuramente sono partuti. Adesso vediamo domani mattina. A me meno gente c'è. Meglio lavoriamo, quando vuoi dire mentre le piedi della giudizio è un bel fastidioso, ma un bel me. Beh, già lo credo, Claudio. Quando vuoi dire niente, vuoi trovare sei tempo. Avevo lo spazio e tutto, e macello, queste persone sono molto curiose, stanno lì a guardare, a fare, no? Meglio essere un po' soli, diciamo, nel senso più liberi, poche persone. È poco macello, gappa. E anche perché, ma non è che puoi domandare, fanno, è che c'è traffico, capito? C'è molto traffico. Non ti ho spiegato, c'è della pira, non è nel torrente, ti danno fastidio, in mezzo ai piedi non possono stare perché sono tutte zone delimitate, e quindi fastidio non verranno, ma è sempre pericoloso per i mezzi. Si camminano a piedi, con i bicicletti, perché altre cose non possono fare. E quindi i ragazzi in mezzo alle bici, vedere bene la strada. Invece quando sai che è tutto libero, puoi tranquillamente avere anche un attimo di distrazione, ragazzi. Invece lì devi stare sempre un quattrucci, a bici, anche se non mi categheggi anche lui. Oh, yeah, vabbè, è solo un po' basso, Vado con lui, vado a lascio. Bisogna combattere. Si combatterà di più a settembre. Nel primo di settembre, a Piazza del Pompeggio, e lì ad assodare forte. Asciugare forte, lì sì. Lì c'è da asciugare. Anche perché... vabbè, asciugare. Il tempo c'è più fresco, ma... con la speranza che non piova, così è. No, per quello al limite non abbiamo problemi, si mette in integrazione, non... a posto darci il 100%, ci danno l'80%, ma è buono, almeno non la perdi la giornata, capito? Ma deve piovere però è per andare in cassa integrazione, piove dalla mattina, se no se piove e smette quando ancora per entrare bisogna lavorare, capito? Se siete fuori non fa, se siete dentro sì. Se si sta più vigilando o già vai, continui a travagliare pure. No, dico se piove per dire prima di entrare a lavorare, nel senso 7:30, 8:15 e poi alle 8:15 smette. Se il punteggio è fattibile per poterci salire a lavorare, si va e si lavora. Se il punteggio inizia sempre a gocciolare, no, allora non lavoriamo, capito? Allora rinviamo la giornata. Però se è fattibile, che non brucia la ponte, allora andiamo a lavorare e si lavora, capito? Ci è capitato più di una volta così, più di auguria. Ma io lo so Dio mio, Rodi. L'ho salutato, prova a chiamarlo tu se riesci a tirarlo fuori, io lo sento più mio. Ma te l'ho salutato, e niente, prova quando l'ha chiamata tu, Rodi, vedi un po'. Selettiva la radio rispetto al 440, al 430 è molto più selettiva, fa meno rumori, nonostante sia più vecchia, però molto più selettiva, c'è un filtro NAR che in AM va molto bene, invece quell'altra è più fatta per le bande laterali. Vediamo un po' se mi ascolta. Daniele, ci sei? Si è adormito, anche se e se tu ritieni che giustamente disturbi e che faccia troppo, il cane ha bisogno di disfogare, non dico la sua rabbia, però ti sta avvisando, e devo, tu voglio avere anche risotto. È come quello che ci vive la stessa cosa, è molto più grande del tuo. No, lui chiaramente dice che è a casa mia, già allontanati, vai dini, capito? No, loro ragionano diversamente. Sì, sì, sì, e beh, si conferma. Il territorio è quello loro, e giustamente, no, io sono, sono troppo contento che il cane sbiglia, e poi c'erano problemi poi nel palazzo, quasi tutti hanno avuto il cane. E il giorno che mi diranno, se il cane mio disturba, allora avranno il pane per i suoi denti. Tutto qua. Ah, che qua ce n'è. Qua la mattina alle 7:30, sono tutti quei cani, io ma cani piccolini, ce n'è qualcuno grandetto, ma tutti cani di appartamento, vanno a giocare qua nel giardino, però io ho il cane grande, il cane piccolino sì va bene, però il cane grande no, appartamento non va bene, perde un sacco di pelo e lui che sono i tappeti con i gocci, no, no. Quindi ce l'ho, lo tengo bene, perché ce l'ho lavoro, dove ero prima, perché i miei colleghi non me l'hanno voluto fare, lì è nato, si può dire, perché l'ho portato, era appena nato. Mi hanno fatto grande, ho fatto tutti assieme, qui dice, non è giusto che il cane se lo debba portare via, lasciare noi, ci siamo noi, quando vuoi vieni, fateci bravo ogni tanto. Però, oramai vi tutti. E lo teniamo benissimo, vaccinato, c'è il microchip, l'abbiamo sterilizzato perché è una femmina, c'ha, no, manco gazzetta, va direttamente al garage, c'è l'autorimessa, lei dorme lì, c'ha il suo habitat, abbiamo provato a mettere la casetta fuori per stare, invece di andare per la gazzetta ci bruciava un'altra gabbia della gazzetta. Era proprio a dirti mica a me della casetta non me la fotti niente. E sta dentro, quando piove, sta dentro in garage, se no d'estate sta sempre fuori coricata vicino al cancello. Non me la fotti niente, ma un bestione di grano allucinante. Come tramanda, la macchina mia non ci sta, la smart non ci sta, in modo più assoluto. Quando la portano in giro e vanno male a fare i controlli e puzzi e così c'hanno il fiorino, è la brigata lento e poi mentre loro stanno facendo i controlli li scende per visioni, fa tutto, si è sempre fatto le colleghi perché non vuole tenuto bene, vuole tenuto bene, lo spazzolano tutte le mattine, però cazzo, il cane deve camminare, deve correre, deve giocare, è un budinino in appartamento. Io odio le persone che hanno i cani grandi, non piccoli come quello tuo, che si abitano e siamo praticamente da appartamento, ma poi non puoi dire un pastore tedesco e portare i grandi in appartamento, non va assolutamente bene. Ebbene, infatti Claudio ha anche ragione, nel tagli piccolo un discorso in appartamento è una cosa, no, se era stato un taglio grande non avrei voluto neanche in appartamento, a parte vogliono anche il suo habitat e devono correre, devono sfogare, devono fare tutto quello che vogliono. No, io il mio lo stesso lo porto tutti i giorni giù, dalla mattina, quando rientro, la sera, sempre lo porto lì, abbiamo un giardino grande, lui gioca, oppure lo porto dove c'è la giro della chiesa, c'è un altro giardino grande, o di fronte al grattacielo lì c'è un altro grande giardino, cioè no, mi piace sbaglio, no. Non mi piace tenerlo chiuso, poi un cane che è abituato a salvare le sue cose, non ti fa un voce nulla in casa, è meglio che me, però lo devo solo portare giù per fare le sue cose. In casa non sporca nulla, assolutamente nulla. L'avevo già abituato a piccolino, gli mettevo la carta del giornale, il giornale non lo sa bene, a lui quando va a fare, quando era piccolo, poi si è preso l'abitudine di scendere giù e andava qua sempre giù. No, fin da piccolo lui non ha mai sporcato angoli contro angoli, mai, sempre nella sua carta faceva le cose. Come quello che c'ha Luca, la stessa cosa. Ma il mio c'è tutto piazzale in cemento, manco la pipì, niente fa lì, va sempre nell'erba, è abituato ormai ad andare nell'erba, va sempre nell'erba, mai ha sporcato neanche la piccolina, niente, nell'erba. Perché io quando ero piccolino, i primi 2 mesi l'ho tenuto a casa, lo portavo giù qua nel piazzale, c'era il giardino, in erba, c'era, lui correva, quindi faceva bisogno di essere abituato all'erba, e come ti vedi erba, e non batti. Perciò, se come cristiani mi fanno pesce, ovviamente la bicinetta quando nei buchi lo banno e dici tu da oggi me questo vasino, oppure chiami, oppure dici un comodo. È la stessa cosa, perché loro se si abituano a seguire gli ordini del padrone o di chi le insegna le cose, stai pur certo che non sbagliano, ma ve lo darò. Sì, quello è vero. Tutto sta dal padrone abituarlo. È ovvio che se il padrone non gli dice niente, qualora lui sbutti da una parte a destra o a sinistra, e non gli dici niente, lui ne approfitta, intanto non vai truta e faccio quello che fa, capito? Invece se tu il cane lo sgridi la prima volta, lui capisce e non dimentica poi, perché il cane è così. Quando tu dici le cose non dimentica. Possono passare anni e anni e anni, lui non dimentica. Certamente così è il cane che ho io, capito? No, già è un cane abbastanza pulito. È ovvio, è abbaia perché è giusto che abbaiare, no? Il territorio è suo. E guardi ci passa, nei bambini, nei grandi, nei medio grandi, che non c'è da fare. Se per esempio io lo porto giù, no? Perché magari c'è anche mio compagno, per dire. E mio compagno a casa, no? Quando risale da giù, che magari siamo insieme, io lo porto su a casa. Arriva la barattura lì alternata e lo fai. E magari un minuto fa era con lui, Micio, per dire. Beh, arriva a casa a Baia, è il suo territorio, come lui va. Beh, normale, ho lasciato un attimino di bianco, vediamo se sentiamo meglio la Daniele, se è in fase di avvicinamento. Daniele? Me lo immagino che c'è traffico, vabbè, quando ti stai avvicinando poi già ti sentiamo meglio. Lo so che c'è traffico, caro Daniele, ecco perché io mi sposto ben poco in questi giorni così di Controesolo e questi giorni così di Ferragosto, di Agosto, insomma. Preferisco starmene a casa anche perché io lavoro molto in macchina, quindi odio il traffico, odio un po' il casotto in generale, capito? Tutto qua. L'hai sentito, Daniele? Sì, basso basso, ma già l'ho sentita, sono riuscito a tirarlo fuori. Purtroppo così fa il traffico, Claudio, è così. E poi tu che usi il moto al mezzo, penso che avrai poca voglia di stare col mezzo, gira e gira in mezzo al traffico. Io lo stesso, mia mamma mi ha fatto il traffico. Alle volte mi preferisco uscire a piedi e prendere la vettura, giusto perché per il traffico, ma non per altro. No, ma in questi giorni no, qualcosa da buffonare, ma io lo vedo quando la mattina, anche durante la settimana che faccio, devo scendere sino lì a Bivio di Stintino, e me ne accorgo che, ma se mi va vedendo di risette di Maldrano, capito? Quando noi spendiamo caffè, io vado a Monte Oro, poi da lì scendo a prendere il mio collega e scendiamo verso Monterra, quella zona lì, perché poi facciamo tutta la zona di Palmaro, la corte, eccetera. E quando vado lì nella zona di Stintino, che arrivo sino al bivio della panoramica, cazzo, è un casino di Gesù lì, adesso le sette di Maldrano. Quindi tu immaginati adesso a quest'ora che tutti stanno rientrando dal mare, cosa ci sarà? No, cosa mai meno. Io preferisco stare qua in zona, se devo andare al mare non mi allontano più che da Blattamona, non mi allontano. Eppure a Tranni d'Anchivi la sera è sempre un problema perché strade intermedie non ce n'è, fai la Budibudi e ti incasini, fai la 131, ci vuole caduto, il traffico ottava, li punti, e non fa, dovrebbe cominciare i punti, perché quello voi eliminato lì, fatta una bella rotatoria, in uscita da dei punti, in ingresso, in uscita da Sant'Orsola, in ingresso da Sant'Orsola, anche lì c'è da fare una bella rotatoria, eliminare tutti chi si semafora, che non si vede blu, che non ci crede. È vero, si accumula il traffico e una cosa non si vede. Se ti ripeto che ieri, quando sono sceso giù a Tizioda, se prendo il cine da quel bivio di Tizioda ci ho messo tre quarti d'ora, grazie, una vergogna, non si fermava una macchina, le file delle macchine che erano una cosa spaventosa, guarda, ieri sera, era spaventosa uscire da lì. Io lo so, e soprattutto quelli piccoli lì, quelle uscite così secondarie, dalle strade di campagna, dell'agro, è sempre un pericolo, evita sempre uno ci abbeglia, chi è sempre dice imbecille, che o non ti dà la precedenza, o si mette a fare il furbo, e quindi, sai, ti può creare sempre problemi, sempre. E a parte quello, poi salivano queste moto da strada che hanno attaccato a intorno, io mi domando e dico, cavolo, ma se dice un ostacolo, ma cavolo fai a frenare, cazzo? Arrivano sparate, scendendo dalla Butibuti, cioè scendendo da Vateloce verso le manine, arrivano sparate, cazzo, è una cosa da paura, è una cosa da paura, fanno quella discesa dove c'è il rio, non so come si chiama, la discesa, la salita, arrivano lì quel pezzettino che si vede una cosa spaventosa, guarda. Io lo so, prima poi ci troviamo la mano ai rubuti, si cazzo vai qui e là, bisogna andare piano in moto, io noto ho sempre paura per gli altri, non per me, sempre paura per gli altri perché ti creano un sacco di problemi, e allora bisogna stare occhi aperti, molto aperti, tutto lì, capito? Occhi aperti. Dici no, è un bel casino. Se mi dai 10 minuti ci salgo con le antine sui massati, se no me le trovo in mezzo al piede domani mattina ed è una rottura di base. 10 minuti e sono mette qua, ok. Faccio proprio la discussione, ne approfitto, faccio un po' di carica di acqua e già sono qui. Va tranquillo, già appena già si fa chiamata, non c'è problema, già sono qua. Cioè tutto acceso, non ci sono problemi. Vai tranquillo, te la dici. Ok, 10 minuti ci sono sta roba. Ia. Attesa, si deve nella gamma. se no pongo un dappo, non fate più niente, mi sono rotto le balle intanto. Per lui ce ne faccio io delle radio, quando c'ho le antenne che mi servono, del resto non mi interessa niente. Grappa. E vabbè, ma se avete qualche luna in più è sempre buono, Tu. Il discorso che hai detto tu non fa una piega, mi intanto sempre quelle così, perciò. Ah, vabbè. Guarda, già la vera, non sempre una se ne usa. Girate le balle, sempre quella usci, quindi. Campagna. Oh, è strano, c'è tutto lo squarcio chiuso. È sempre una telefonata, la modulazione. Quanto? Io non offendo nessuno, io vado a volte le cose, le volte un gabbo. Ci ho messo un po' di giorni a capire qual era il problema e praticamente mi sono accorto che le altre radio c'erano tutti il cavo di massa, il giallo verde attaccato allo scaricatore di massa, c'è una piastrina in rame sotto, tassellata a muro, con tutti i bulloncini da sì, gli occhielli ricevono le masse. E questa non era attaccata, quindi gli ho fatto lo spettacolo suo, giallo verde come tutti gli altri, due occhielli, uno per la radio e uno per lì. L'ho attaccata e stai per certo che non fischia più. Questa radio hanno bisogno di massa, di lavorare bene, di scaricare, perché c'hanno già tensioni molto alte. Quel microfono sembra diventato dalla radio, può sempre creare dei problemi. E niente, riparato. Ho lubrificato un po' la ventolina, ho fatto un po' di manutenzione, ho fatto le regolazioni che devono essere fatte. Non ci sono problemi, non ci stanno problemi a tu. No, grazie, no, tutto dolce, lì, la voglia. Mi aspettavo, sono pulite, chiare, le madre, no. Non ho difetti, problemi, no, poi se avessi avuto qualcosa, sono il primo a dire, non mi metto problemi. Però grazie a Dio, le radio tue sono perfette al 100%, ma no. Quando si tengono in ordine, torniamo al discorso, tenendole in ordine, in efficienza, le cose vanno sempre bene, Capparoccia. Poi se hanno bisogno di masse, di cose, bisogna metterle, perché ti creano anche meno problemi e tutto quanto, no? Quando ci vogliono, c'è poco da lontano. Cosa va il 3044? Hai chi? Già il 4440 e vedi, era Careggio il spagnolo, dove ha detto 44 e vedi. Ah no, c'è quello squadro, c'è quella radio, sta dicendo, sta parlando di radio. Dimmi dove te. Di adesso ho aperto lo squadro, sì, già le sento, che se la vicina. Va a vedere il bilito. Ma già lo senti a Daniele che parlo lo spagnolo, Daniele me lo copre un po'. Se non parlo lo spagnolo, Daniele te lo ascolta. C'è sempre lo spagnolo in mezzo. Spagnolito, ritiri di lì, spagnolo. Io guardo gli assi ai minacari, ce lo dico, via. Io penso che le capisce. No, qua già arriva anche lo spagnolo, però a Daniele non lo copre. È leggermente più forte. Poco fa lo sentivo in mezzo, sentivo tutte e due, ma adesso sento meglio Daniele che allo spagnolo, non ci sono problemi. Già va bene. E quindi sei incolonnato, Daniele, usci. E dove è il traffico? Praticamente arrivare alla rotonda. Beh, è sempre lì il problema. È sempre lì, non c'è niente da fare. Purtroppo ancora che ti cani molti sono in circolazione e quindi bisogna avere ancora un po' di pazienza, ma io penso alla prossima settimana siano tutti al posto di combattimento, uscire. Certo te, no, io dovrei prendere qualche giorno salvo complicazioni proprio a fine di agosto, ma quando già il controesodo è iniziato e la gente già è tutta, diciamo, quasi a casa. Per prendermi le ferie e stare in mezzo al casino, se mi voglio spostare per dire sì, voglio andare a farmi un giro, voglio andare in diretto geografico, perché adesso è un casino, spostate in quelle zone, al Ghero, anch'io vorrei domenica scorsa, c'è avanti con mia moglie a fare un passeggiato al Ghero, ma per carità di Dio, guarda, mai più, preferisco starmene a casa, no, me ne affrutti nulla, è più forte il traffico, a me mi rompe le scatole, non fa, capito, tutto lì. Ok, riprendi a tu. E poi adesso quest'ora è puntare, mamma mia, già se ne sarà poco il traffico, oioia. E così è così, no, già lo sento come parla, però lo sento wow, lo sento in mezzo a quel regime, capito? Però già qualche cosina riesce a tirare fuori, qualche cosa no, purtroppo quando c'è la Spagna in mezzo è un macello. Kappa, e poi io sarò un po' in zona negativa per lui, non lo so. No, qua gli arriva, non arriva, insomma, alla grande, comunque riesco a tirarlo fuori perfettamente, senza nessun problema. Avanti, Daniele. No, adesso questo passaggio ti ho capito che quando arriva la camionata riesco a tirarli fuori. Questo passaggio ho sentito tutto quello che hai detto e in effetti così, magari sono un po' chiuso in quella zona, però adesso ti ho tirato fuori, ti ho tirato fuori un po' piccolo, ma ti ho tirato fuori bene, meno iniziamo già a ascoltarci allora, avanti Claudio. No, prova con lui, vedi un po' se riusciti a ascoltarli meglio adesso. Adesso c'è un problema di questo cavolo dell'elicottero oppure vannaccia la marina, va. Lo senti l'elicottero, Claudio? Vai te. Lo senti? Niente, ma anche fermato, vai. Vai. Qualche cosa. E tu? Non vorrei prendere da Ian a fare i drammi. Hai sentito il rumoraggio? Ma ce l'avevi proprio sopra, io l'ho sentito. Lo sento in lontananza, ma deve essere proprio nella zona tua. Adesso si sta avvicinando anche qua. Si sta avvicinando anche qua, però c'è per entrare della zona o deve atterrare a qualche parte, no? No, sta atterrando, diciamo, i vigili del fuoco stanno atterrando lì all'Impisi, guarda il casino che fa accanto, ma non lo possiamo mettere il generatore, davvero li atterra lì, ma immagino che per anni atterrava qua al campo sportivo di Carbonazzi. Adesso non può, non atterra più perché hanno finito il campo, hanno fatto il campo in erbetta e tutto. Quindi non atterra più. Ma ha già tanti voci che atterravano i vigili del fuoco, quelli degli di soccorso, del 118. Cazzo, pugno a casino, ma a casino, anche in orari un po' balordi, capito? Sono troppo rumorosi, cavolo. Dovrebbero mettere qualche marmitta più silenziosa. Chi se rubano neanche tu? Chi se non hanno una questione di marmitta? Quelli c'hanno le pale che rullano. Fortunatamente esistono questi mezzi, senza l'elicottero sai quanti problemi avremmo avuto. Un bel, l'elicottero dovesse atterrare in una corsia, io non riuscite a atterrare, bloccato la strada e atterrato a fianco alle macchine e portare via subito i feriti all'ospedale perché si ricaricava in ambulanza, un frontale lì sulla strada di Urbia. Si caricava una buonata nella Rivia Ubbia e a Murti. Sai, Murti è un matteci comunque. Atterrato nella strada, Atterrato nella strada. Era stradale. Le Murti macchine in traverso e in mezzo atterrato l'elicottero. Quindi è un mezzo di soccorso molto utile, molto, molto utile. È un mezzo di soccorso utile e spiccolario. Per tante cose. Vabbè, facciamo riprendere l'amico, dai, vedere dove è arrivato, se riesco a tirarlo fuori. Avanti, amici. Cappa di roccia, anch'io adesso li ho tirati fuori. Cappa, bene meda. E allora siamo andati al mare, di luce, dai. Va bene, fa di. E metto Claudio, ha ragione, mi sa che la prossima volta mi andare in elicottero, avanti Claudio, dai. E se non vanno niente, bisogno di chi c'è aerei, gli atterrano in leva, capito? E ci sono gli Altamona, ti prendi uno di quelli, arrivi tutto, fai un paio di viaggi, tranquillo, atterro in leva e via. L'elicottero non ce n'è. Il 118 c'ha un sistema operativo, soprattutto con l'elicottero, e non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno, è molto importante, è una cosa che non deve mai mancare quello. Non deve mai mancare, perché se non ci fosse veramente l'elicottero avremmo avuto tanti problemi. Dove arriva quello, non arrivi neanche i gravi, Daniele. Chi era colpi di Gricu? Si mettono sempre in mezzo, loro sentono modulazioni e si muovono in mezzo. Non hanno problemi, anche se, ma poi parlano tra di loro, capito? Che hanno un buon raggio, riescono molto bene, gli spagnoli sono quelli che arrivano meglio di tutti. Come in queste zone, spagnoli e francesi, arrivano molto bene. Vabbè, lasciamolo là, tanto mi fa un po', sei già in fase di avvicinamento. Ma stai venendo qua a Sassari o stai andando in qualche paese, Rani? E allora, già sei in diritto all'arrivo, vai piano, senza brescia, perché ti ripeto, in queste giornate così bisogna stare sempre con gli occhi aperti. Uno per chi guida e l'altro per chi c'ha dietro, complice. A volte si drommene, no? O rispondere al telefonino, sono rotte i continentali. Già sono esperti a stare in colonna quelli, già sono esperti. Gente che fa chilometri e chilometri nelle superstrade e nelle autostrade. Quindi già sono abituati a camminare in colonnati. Noi è che ogni tanto rimane colpo di clicco e rompiamo l'altra macchina. Il problema è che si avventurano, prima si lanciano, poi quando si accorgono che c'è il pericolo che loro non conoscono, allora iniziano a rallentare, a frenare, con in breccia, a voi dovranno passare, e a me mi si viene di bilitri, e quindi commetto i pigni, capito? Tutto lì, vai a tu. È vero. Tutto un casino, mannaggia, è vero. tardi, specialmente lì salendo a Sentino, che anche non conoscono le strade, prima partono le tombe, vengono anche le curve, boom, bocca, le gatte, ma è tutto macello. Gappa, gappa, vabbè, no, sono abituati alle autostrade e via, dai, tutto lì. Beh, ma devono avere anche un po' di contegno nei confronti degli altri, perché, ripeto, se capita, come capita spesso, sai, i continentali, che i sardi che abitano il continente vengono a fare vacanze nuovamente qua, nella loro città, e le strade le conoscono, si possono dimenticare qualche cosettina, ma le conoscono. Cazzo, ma bisogna continentali che si lanciano a milli, come il primo ostacolo rallentano e ti mettono in difficoltà, oppure frenano di golpe, si arrombano in cunetta senza breccia. Quelle sono persone che bisogna stare molto attenti, bisogna stare molto molto attenti, occhi aperti, perché sono persone che di volta ne fa danno, capito? Anche per le moto, eccetera, bisogna stare molto attenti. Beh, che appunto sì, Daniele, piano piano già stai aumentando il segnale, vai, non c'è problema. Non mi hai perso per niente a me, già da quando eri alle Saline, sì. Riusciamo a difenderci, non c'è problema, vai Anto. È così, no, come postazioni noi stiamo bene, ascoltiamo a tutti e niente. È così. Vabbè, comunque ti stai avvicinando, già il segnale sta aumentando, la radio lo stesso. Tutto positivo, dai. Kappa, dai. E quell'Inter che ti sei stato fatto acquistare, dai, che ti ha fatto un po' un mezzo incazzare. Qual è? Quell'Inter che ti hanno fatto acquistare, che ti ha fatto un po' incazzare. Va bene. Riprendi qua. Qual è l'Inter che quello semidigitale, ho capito. Appena era uscito creava un pochino di problemi, ma poi già si è risolto tutto, ho capito. No, io ce l'avevo, l'avevo comprato per la macchina, poi l'ho fatto subito perché non mi piaceva digitale, che poi non è digitale, è un semi digitale, c'è un po' una scheda con un semi digitale, ha tutto il sistema analogico, però c'è il circuito semi digitale. È una radiolina, già funziona, ma io per la macchina avevo sempre preferito l'Alan 48 Vanier. No, già funziona, non c'ho anch'io 40 nella media, mi vanno molto bene, quella c'è la carica centrale con la grigia, vanno molto bene quelle antenne, sono piccoline però funzionano molto bene, non c'è problema. Beh, contattate quelle radio lì, quelle macchine sono le migliori. Vabbè, come c'è Domenico, è una cannonata, l'avevo fatto prendere io anni fa. Tu immaginate che Domenico è venuto, quando è arrivato qua a Sassari, da solo, la Giba, è venuto a lavorare con me. Io adesso faccio un altro lavoro per conto della regione, prima avevo i furgoni, anche io, sai. Avevo una ditta di autotrasporti, ne avevo la di Farma, ne avevo la Traco, ne avevo la SDA, ne avevo la Polda, ne avevo la Roni, capito? E Domenico guidava il camion, avevo preso un camion proprio per lui, un 60-11, e si è fatto male Domenico, poi si è un po' aggiornato, si è preso le altre, e quando io poi mi sono ritirato, lui era entrato a fare il trainista per anni. Una persona che non ci sono parole a definirlo, un grandissimo lavoratore, una persona molto educata, molto a modo, e non ce n'è per nessuno. Quando lo vedi dagli tanti saluti, un abbraccio da parte mia, da parte di Claudio Sparaghiero, e vedrai cosa ti dice. Capo, stata qua a portare l'articolo. Qua andava la sua la tiri di me, aveva appena preso la C, è andata a vedere col furgone. Mi stavo prendendo la E, e allora piano piano il venerdì con il bu, lui ho l'articolo. Ah, abbastanza in campo, ci sentiamo, andiamo a cena, che c'è, una mia ragazza, moglie, bambini, a voi, c'eravamo anche l'altra sera a cena con lui, ci andiamo a mangiarci una pizza che era in fine questa settimana, adesso lui rientra domani, rientra, riprende. Quest'anno almeno una settimana gliel'hanno fatta fare con calma. Mamma mia, quando rientra si controlla tutti i rugami, i grattoi. Mamma mia, è proprio il pignolo. Tu dalle mie saluti e dille a letto Claudio che l'unico difetto che c'hai è che sei peloso e poi sei basso. Ah, ti ho detto, non sei basso, tu sei corto. Stavo sul camion, guarda, sì, sono da solo a buchi con lui. Guarda, a dirti la verità, non è in macchina con la moglie, guida lui. Io in camion con lui si è addormentato. Non ci credeva neanche lui. Pensa un po', allora lo fa, lo faceva toccare solo a me, così che non gliene dà neanche. Loro lo chiude, adesso è fine. L'ha chiuso e gli ha detto, state tranquillo. Lo sei un bel pignolo, letto, io te lo pulire tranquillamente, c'aveva la macchina, gli eravamo proprio perfetta. Figurati, quando abitava lì via Le Mameli, che ci andavo spesso a lui, so c'era il rappresentante della Fiorucci, la maniata di salamo, mortadella, che ti bici, che non ti dico, ma tu, pesce Maria, che 17 anni ho fatto di quella roba, quando ero un numerico, e praticamente io ho visto nascere tutto, ho si è fidanzato, ho si è sposato, ho visto nascere i figli dove abitava prima, ho visto crescere a Domenico, capito? Quindi per me è un fratello, una persona troppo in gamba, solo che non si fa depilare, cazzo. Ma mai l'hai visto a petto lungo? Domenico, immaginino, ho visto, Dio me ne scappi lì, no, in gamba, no, adesso a parte il pelame e tutto, no, una persona d'occhio, ho conosciuto praticamente, guarda, Claudio, è veramente in gamba, è una persona veramente da stimare. No, io mi sento quasi ogni sera, ogni mattina quando rientro dal trabacco, l'una e mezza del mattino, dai. No, con Domenico già abbiamo delle ultime, infatti ultimamente non lo sentivo in frequenza e me lo sono immaginato che era in fili, Paccio si riprende domani, riprenderemo alla grande, e così quando vuole passare la sua motovattina, lui sa che siamo a 10, già lo sa, a me perché non mi ha più sentito, e l'altro giorno mi ha detto, hai fatto bene, te ne sei uscito da quella frequenza che è tutto un ballamo. Al di là di questo sono troppo contento, no, no, è un amico bravo, K Roce, non ci stanno problemi, Claudio, appena lo sento e mando due saluti alla grande. Si conferma. Tu Daniele, comprali una, io la sterilizzata li faccio sempre, perché non c'è neppure con me, scherza moltissimo, ci capiamo subito, te l'ho detto. Domenico è stato uno dei primi, forse il primo, si parece ad Andrea Pedoni, con me e lui. Ah, i figli di Gavinuccio Fede, il piccolo c'era con me, Frenia Verfo. Lui era quello che gestiva un po' tutto, non c'era la... Io non c'ero, avevo tutto a lui, dov'è? Fine mese. Fattura in cassa e poi ci vediamo. Guarda, una persona così di fiducia, così non ce n'è, quando uno venne non venne, quando uno deve affrontare una persona, deve affrontare e basta, una persona troppo in gamba. Gaffa, già lo so, ma è uno dei primi, diciamo, che è diventato proprio amico lì alla TNT, anche se guidava l'articolato, sì, c'ho gli altri colleghi, io della distribuzione, però ho iniziato ad andare con lui, mi stava insegnando a guidare l'articolato, una persona troppo dove. Comunque, qua, anche a me mi servirebbe la meta, anche se ho cumpliti sento, solo la banda mi manca. Come lui, oh, per carità di Dio, no, mi chiedo un nome, mia schiera è una scimmietta, mi dico. Ehi, quando lo conosciuto io, diciamo, a Manichi Gotti, l'estate, io ornaggio, si può dire, un fratello, manco la vaiba, lui è proprio allucinante, fatto per andare a venire, noi, andiamo a capisci di dargli a me, se prendiamo quello lì, poi, altro non muore mia moglie, che le piace il manto peloso. No dai, proprio con lui no, io là, ho già ne ho un po', dai. Però proprio esagerato con lui no, sono proprio necessario da tutti i lucchi, si muove una magliettina, ne c'è una magliettina addirittura, pensa un poco. E ho trovato da me, si è sempre quando sappiamo Rome. Non forama? Cappa, buono, così domi. Ce l'hai di pelo. Beh, io inizio a lasciarvi, vi saluto, è stato un piacere sentirvi e conoscervi, spero di conoscervi in persona, così ce la beviamo, anche il caffettino, buon domenico, dai, alla prossima, ciao a tutti, ciao Antonio e ciao Claudio. Ciao Daniele, un abbraccio a tutta la famiglia, buon rientro con tutto che abbiamo fatto compagnia. Va a cercare da Sassari e sì, tranquillo e sereno. Se lo vedi a domenico, in radio mi entro così a fare due chiacchiere con Falchetto la sera, ma di giorno sono sempre fuori, adesso domani sono tutto il giorno alla Genova per lavoro, quindi se lo vedi e lo senti, dalle un abbraccio grande da parte mia. E gli ha detto Claudio di tagliarti il pelo e di metterti il cuscino nell'articolato. Vai Antu. Ce l'ho fatta la buona, ce la riascolti la volta del bus. Se capita che ci vediamo a verificare, ce lo prenderemo il caffè, non ci stanno problemi. K, se vedi a domenico, saluto anche da parte mia, non ci stanno problemi. Fate la buona, saluto a te, quella della famiglia. K Roger. Grazie, K Roger. Ciao, ciao. Ciao. Riprendi qua. Ciao, Vania, ciao di nuovo, buon rientro con tutte le trusce. Vabbè. Sai che come? La mia carriera passata, ti dico che c'è un bel freschetto, eh? Quel bar che non ho già fatto nulla a gira, invece ho spostato questo armadio, è pesante. Ed è tra l'altro pieno di roba, l'ho spostato, ho tolto la roba che c'era, pulito. Avvicinata al muro, così Giulio c'ha proprio la misura giusta per potermi fare l'altra cosa. E alla fine ho lasciato quel pezzettino che ha detto lui. E niente. Tu, le 8:05 sono, andiamo a mangiarci un boccone e poi ci risentiamo o cosa avremmo? O ci risentiamo e mangiamo e ci risentiamo. Dimmi te. Forse la prima è promossa, dai. Mangiamo e poi ce la riascoltiamo, dai Claudio. Dai, vai con una buona carica, io stesso mangio qualche cosina. Caparoccio, a dopo, a parte Claudio. E dai, sono le 8:05, due chiacchiere già ce l'abbiamo fatte. Ci mangiamo un boccone e poi ci sentiamo. C'è anche la partita stasera, Milan e Juventus. Un trofeo importante, rimane ma giubito l'Inter. Cazzo Maria che indovia Bigliassi o 7 della Roma, si è incazzata e ne ha fatto 3 e ha vinto già la coppa, la prima coppa estiva, e vabbè, mi sa che quest'anno non ce n'è per nessuno di nuovo, ci mangia tutto l'Inter, lo squadrone, cazzo lo squadrone, vabbè Anto dai, ci sentiamo dopo, è tutto acceso qua, vai tranquillo a cenare, io mangio una crocetta e poi già sono qua. Ok, allora, fra te, cambio. Eia, no, te lo chiedo anche la ciocca perché la Juventus. Alle 8:30 c'è Milan Juventus, un altro trofeo importante, come ricordo cos'è? Ieri era la Coppa, no, Italia, non metto, comunque l'ha vinta l'Inter. E stasera c'è Milan e Juventus. Va bene, ci ascoltiamo, ce la riascoltiamo a più dopo. Buona carica, Claudio, a più dopo, ciao. Padre Rogero, va bene, a dopo, c'è tutto acceso qua, ciao, buona cena, cambio. E yeah. anche qua è tutto acceso. Buona cena anche a te, a dopo. Ciao ciao. Ciao ciao. Vai, vai, Spalliero, vai. Chi è Spalliero? Chi è? Questo Spalliero mi sembra la voce di Stefano. Non ti sbagli. Stefano Principe, sì. Mo, buonasera. Beh, Spalliero, se vuoi tu mi chiami. Beh, sei, come stai? Beh, aspetta un secondo, aspetta un attimo. Spalliero. Sì, e allora, come stai? Mai felici? Ormai ti hai fatto la cittadinanza albiese? Ormai sì. No, non sono in fede, sono di riposo. Sono venuto qui a riposarmi, perché sennò ormai c'è la Urbia. Beh, lo so. Lì c'è tanto a lavorare tu. Dico c'è tanto a lavorare, no? Quindi è giusto che cambi aria per riposarti, se no quando ti riposi. No, tutto bene comunque, dai. Sono contento di averti risentito. Sì, con Giampaolo ci siamo sentiti di là, in quella frequenza. E appunto mi ha detto che ogni tanto mi vedete, che avevi preso il Mibuban, come il mio, ma io sono il 430. Niente, tutto lì. Per il resto, vicino per me c'è ancora Antonio Falchetto, vediamo se c'è Antonio. Io qua sono. E vai per Stefano Principe. Non so se l'hai mai sentito. Buonasera Stefano, mi hai sentito per la prima penso. Buonasera Antonio, no. Ci sono contatti due o tre volte, magari tu sei un po' sventiato. Ragione, principe. Non mi dico la dubbio, sventiato. E allora, dopo tanto, ogni tanto ti ci puoi sentire, dai. Qui tanto esco, passo, vengo qua a se ne accendo un pochino. Però tu vedo si disintegra, non capito. Ehi, già va bene, allora. E ogni tanto passa, lui capito. Passa, controllare tutto. Grande Stefano, grande. E quindi lì, sempre sul facendo quel traballo, là, per capirci, insomma, sempre guidando là. Sì, sempre guidando, sempre andando al corrente. Ormai sono qui su Porto Cielo, sempre lì, qua ne ho scatto le piene, la verità. Non vedo più. Beh, qualche viaggetto fuori come facevi prima, ogni tanto niente. Sì, no, adesso sono a settembre il 9 vado fuori, sì, ma quelli ci sono sempre. Ah, già ci sono sempre quei viaggetti che piacciono a te. E poi compare, non ci è più andato. Che compare dovrebbe essere qua in Sardegna con la moglie in vacanza, E chi l'ha visto? Se chi l'ha visto, dove? Allora, nei Caraibi, vabbè, l'importante è stare bene, tutto, non ti sei sposato, no? Non hai combinato niente, non notizie belle non ce ne avrai, figli non ne hai, niente. Non c'è una persona che ti la figlia, non c'è problema per quello. Cos'è? La mia fidanzata c'è una figlia. Non me lo dire. Certo. Bene, hai visto che cose cambiano. Piano piano. Andava bene. Va bene. Vai Anto, dai, altri 5 minuti con Stefano, poi andiamo a pappare. È così. Cavoli. Va bene così. E intanto una cosa veste. A noi tocca a me. Telefono, come sono andata la situazione, e non so se era vero o meno. Che ti ha detto Giampaolo? c'ha 10 metri. E scusi un po', mi ha detto, credo che se ne voglia risparmiare, ho detto allora dille a Stefano di chiamarmi oppure darmi il numero, però eravamo in quella frequenza là e quindi non me la va. Però io sono telefono a casa adesso, il numero mio mi pare che sia sempre lo stesso, non so se ce l'avevi ancora. O se vai fuori, che ti trattieni fuori, me lo porti, sono sempre al solito posto. Anziché però essere al nono, sono al secondo adesso, perché mi sono trasferito nella casa più grande di mia suocera. Capito? Comunque sono sempre lì, perciò non c'è problema. Se vuoi fare quell'operazione, me lo dici e si dà subito, capito? Faccio giù le telefonate e si fa. Ciao, ciao, ciao, dopo.